mi fate parlare. E che vuoi dire sulla, sul Colorado? Sono aumentati. Ma parli solo te, benissimo. Oh, la trasmissione ma è tua. Chi l'ha detto? Maurizio, ma scusami un attimo, perché? No, no, ragazzi, perché mi dici? Adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare. Ma la che c'entra? Io non faccio la spalla dei pagliacci. Ma che cosa c'entra? Ma la smetti con queste cose? La propaganda della droga. Siete due delinquenti. Ma che delinquenti? Siamo a favore della legalizzazione noi. Siamo a favore della. Ma che droga? Ma quali? Ma quali spacciatori? Ma che sei impazzito? Fare il culo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Buonasera, buonasera miei piccoli schifosini. Problemi loro, sono froci, problemi loro. Ma la sbrigo così, sennò mi attaccano da tutte le parti. Altro che forni crematori, sono sporchi, puzzano, entrano nelle case degli italiani, non fanno un cazzo tutto il giorno. Però tutto sommato la zanzara è un bel programma, dai. Cruciani, ma smettila di sparare cazzate, vatti a vedere un po' di video su YouTube sul festival di Yulin. Che cani da allevamento, ma cosa dici? L'allevamento di criceti che c'hai nel tuo cervello. Si mangiano i cani di proprietà, i cani randagi. Anzi, sai cosa ti dico? Siccome mangiano i cani randagi, io spero che quei cinesi di merda gli venga la gastroenterite cronica, la diarrea cronica. Io non gli auguro la morte, perché non auguro la morte a nessuno. Però quelle non sono persone civili, sono dei barbari e tu li difendi pure. Ma vergognati. Oh, vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo! Andiamo, belli! Allora, caro David, eccoci. Mentre in Argentina un uomo di 128 anni afferma di essere Adolf Hitler, un uomo di 128. Quando perché questi piace, qua non si palesano anche in Italia questi personaggi? Non capisco. Ti piacerebbe. Cioè, ma è straordinario. Ti posso dire una cosa? Abbiamo già ogni sera da 7 anni a questa parte un campionario, una quantità di spostati che dici non serve. Non c'è bisogno di qualcosa in più. Sì, però questo secondo me devi ammettere che è eccezionale. Less is more, come. Sì, ma questo è eccezionale. Uno che less dice is sì, more. Un tedesco che si chiama, ho letto, andate Gutenberg. A vedere su Google, chiedo scusa. Less is more. Andate a vedere su Google così potete capire il significato. Ma non fare il saputello. No, no, no, come no, sempre, lo dico, non a quelli che ascoltano, a quelli che chiamano. Quelli che ascoltano sanno. Quelli che chiamano, vadano su Google. Cosa sta dicendo quel mostro? Lucia, amica mia, ti abbraccio. Grande l'intervento di ieri. Pure la puttana di Pordenone, somala, meticcia. Ti dicevo, mentre in Argentina un uomo di 128 anni afferma di essere Adolf Hitler, un signore di Gutenberg, che si chiama Gutenberg, che abita in un posto che si chiama Salta, pare che abbia un po' di Alzheimer questo signore, direi. Salvini dice che chi non paga le tasse esercita legittima difesa. Senti. Pagare meno per pagare tutti, sconfiggere l'evasione fiscale, e chi evade anche questo solo 15%, sì, lo metti in galera e butti via la chiave. Chi non ce la fa pagare stasera il 65% perché non ce la fa, esercita la legittima difesa, non necessariamente un delinquente. Chi non ce la fa a pagare tutte le tasse esercita la legittima difesa, Salvini. Comunque, caro Parenzo, alla fine vi siete arresi anche voi. Noi chi, il governo di centrosinistra pare, non è ancora certo, che vogliano bloccare i porti alle navi dell'ONG. Mi pare qualcuno addirittura pensa a un blocco navale perché arrivano migliaia e migliaia di immigrati ogni giorno. Scellerata, militarista e scellerata, non mi sembra la soluzione. La soluzione in questa fase, visto che arriva l'estate, appunto siamo in piena estate, eccetera, è quella di fare proprio dei corridoi umanitari, sarebbe corridoi umanitari. Sì, sì, corridoi umanitari e fare quelli che dovrebbero chiamarsi i taxi del mare, cioè la guardia costiera. Ah, i taxi del mare, cioè dovremmo sì, andare a prendere noi gli immigrati. No, prendere no, ma bisognerebbe pattugliare le coste il più possibile vicino alla Libia. Prendere e tutti quelli che arrivano. No, silenzio, e prevenire queste tragedie oggi come ho documentato. Ma cosa c'entra? Quali tragedie? Silenzio, cosa io come oggi ho documentato all'area che tira, c'è stato un bambino, un bambino. Allora? Un bambino. E allora? È morto in mare. Ah beh, allora. Ma muoiono un sacco di gente in tutto il mondo. Ogni giorno. Ogni giorno muore un sacco di gente in tutto il mondo. Ti segnalo che ogni giorno è morto un bambino in mare. Va bene, benissimo, la madre, grazie, la malissimo. Di allora... 26 anni. Va bene, d'accordo. Incinta di un altro figlio. Allora, siccome le storie che dobbiamo raccontare sono queste, ma non c'è nessuna storia da raccontare. C'è da bloccare i porti. C'è da bloccare i porti per un periodo lungo, lunghissimo. Siccome si può fare questa roba qui, e chi lo fa? Improvvisamente chissà perché gli immigrati non arrivano. Cioè, se tu blocchi i porti, dici, guarda ragazzi, qui non si può entrare. Improvvisamente gli immigrati non arrivano. Non è che muoiono in mare. Così? No, io lo penso, sono sicuro di questo. Perché loro dicono, siccome c'è il porto chiuso, la nostra fame... rimaniamo qui e non scappiamo. Non arrivano se tu chiudi i porti. Non arrivano. Ho capito, vediamo. Avevate propagandato che non sarebbero tu e Salvini e altri amici vostri dei Fratelli d'Italia. Tu che ne sei ormai il portavoce unico di questo movimento. Ma quando che andrà... mai? Io sono il portavoce del movimento Noi con Cruciani e basta. Va bene, comunque voi di questa idea. Anzi, io con Cruciani. Ci avevate spiegato tempo fa che la legge Bossi-Fini, che attualmente in vigore. Ma sei un politico? Ma che è sta roba? No, ti sto ponendo una questione. Comunque, anche Renzi dice. Da giornalista faccio la domanda al politico Cruciani. Anche Renzi dice: non possiamo reggere questi numeri. Persino Renzi dice: non possiamo reggere questi numeri. Renzi è di centro, che vuol dire? Persino Renzi, cosa vuol dire persino? Allora, Fabio Fazio. Polemiche violente hanno invocato la sommossa popolare. Questo credo che si riferisca a Gasparri da noi. Hanno invocato la sommossa popolare. Amico Fazio, a me non interessa. Tu puoi prendere 2 milioni di euro l'anno, 3, 4, 5. Però non è che ti metti a piangere per ste cazzate. Nessuno ti dirà nulla per strada. Nonostante quello che dice Gasparri, cioè, nessuno ti... potrai tranquillamente girare in bicicletta nel quartiere, peraltro praticamente lo stesso dove vivo io, senza nessun problema. Nessuno ti dirà nulla, niente. Non è che la gente ti incontra e ti dice: oddio, Gasparri ha detto che per te ci vuole il disprezzo popolare, sputiamogli in faccia. No, nessuno ti sputerà in faccia, nessuno farà una sommossa, nessuno si incazza per strada quando ti incrocerà. Dunque basta piangere con queste cose, basta piangere prima perché la Rai è in preda alla politica quando lo è sempre stata. Adesso va benissimo, sei bravissimo, godi di soldi, non ci rompere i coglioni con la sommossa popolare. Su polemiche che purtroppo, devo dire, anche con, se mi permettete, inusuale violenza mi sono state scaricate addosso in questi giorni, senza fare tragedie, però insomma quando si arriva a invocare la sommossa popolare o il Kalashnikov, l'hanno fatto alcuni giornali. Nessuno ha invocato la sommossa popolare, tranne il web, naturalmente. Insomma, gli hanno fatto una campagna pesante. Ragazzi, ma che campagna pesante? Dai, la campagna pesante deriva dal una fatto che uno prima ha pianto. Uno che prende 2 milioni di euro. Nessuno piange. No, lui ha pianto. Ha pianto. È un modo di dire, è un artista. Ha posto una questione, l'hanno pagato così. Sollevare il popolo dicendo: guarda che vergogna quanto hai pagato. Per i calciatori si fa questo discorso. Perché no. C'entra, mica li paga il pubblico i calciatori. Ormai la Rai è come dire, è purtroppo concorrente al privato da sempre. E quindi purtroppo col canone in bolletta. Ma non è un problema di Fazio quello. Intendiamoci una cosa. Allora, cioè, la sollevazione dovrebbe essere contro la Rai, non contro Fazio, benissimo, che è passato alla cassa. Assolutamente. E ho detto la parola cassa. Però voglio dire, è passato alla cassa Fazio, va benissimo, ma non dovete prendervela voi moralisti, 5 stellati, pentastellati, crucianizzati. No, io non c'entro nulla. Ci siete tutti la stessa roba con Fazio. Prendetevela con la Rai. Allora, la Boldrini pronuncia queste parole. Senti qua, la Boldrini pronuncia queste parole. Complimenti. C'è la nascita di una bambina, credo del suo staff o di una giornalista, non mi ricordo che cazzo è. La sentirete. E la Boldrini si esprime in questo modo. Senti. Allora, colleghi e colleghe, vorrei anche inviare un saluto. Un saluto molto sentito a Celeste Costantino, la nostra collega che ha fatto una bambina che si chiama Bianca e che sta bene. Un saluto a mamma e bimba. Come dice? E il papà non è parte in causa in questo caso. Allora. Allora, Celeste Costantino è chiaramente un deputato. E... bello però come saluto, mi è piaciuto. Sì, bravo. Però che c'entra che il papà non è parte in causa, scusa. Cioè, complimenti adesso, alla mamma e alla fare bimba. Polemica. No, si ma, vede ragazzi, che è fi- scusate, si vede che il padre non l'ha riconosciuto. Scusa, scusa. Ah, no, no, forse, non lo so. Ma no. Ah no, forse intende che la fatica più grossa, cioè di partorirla, ho capito, l'ha fatta la madre. Qualcuno gli ha detto, fai i complimenti. Senti, pure al padre. Ma no, fai i complimenti come, anche al padre. La fatica. Senti, tu quando, diciamo, è un po' diverso, no? Cioè la donna ha tutti i 9 mesi in cui tiene il bambino. Amico, uno fa, tu maglia... ti diverti per 30 secondi, forse 40 quando eri più giovane. 40 secondi. Anche tu ti sei divertito 3 volte. Io però, sì, no, però non 40 secondi, però ma non sì, 40 secondi. Ti sei divertito un minuto e mezzo. Mercù, tu e Mercù noti per avere questo problemino dei 40 secondi di che quando vi va precoce. Bene, esatto, diventa 50. Dopodiché la donna ha 9 mesi di gestazione più quel momento sì, terribile, straordinario al, che è il parto. Al di là dell'eiaculazione precoce, la signora Boldrini, quando le chiedono faccia i complimenti anche al marito, ma me, sì. Al compagno, poteva dire sì, certo, sì, no, poteva, invece lei dice però. Non è parte in causa. E chi l'ha ingravidata la signora Celeste Costantino, l'onorevole Costantino? Non diventa ingravidata, ho detto, non ho detto niente di più. Chi l'ha messa incinta? Chi l'ha messa incinta? Lo Spirito Santo, so. L'uomo. C'entri tu qualcosa? Fai complimenti. Io non c'entro nulla, non ecco, so manco chi è. Fai i complimenti anche al padre. Dato che stai messa in testa di fare i complimenti perché nasce un figlio, va benissimo. All'interno della camera, come si fa in ufficio, va benissimo, per carità. Fai i complimenti anche al padre, no? Complimenti anche al padre, sì, certo. Poi torna ancora, senti. Scusate, la bambina è stata fatta da Celeste Costantino, è nostra collega, noi ci rivolgiamo a lei, è essenzialmente a lei. Sempre questa cosa della femmina. No, mi dà fastidio, mi dà fastidio questa. Prescindere, no, sei così, ma ti assicuro tu. Non è a prescindere. Sei io guardo prevenuto. Al merito, non me ne frega. No, quando ti assicuro. Tu li vedi sulle vedi sui siti vedo Boldrini. Rosso, dici, vedi, sì, come i tori. Come, bravo, sì, esatto. No, esatto. Ti assicuro non è così. Però sì, mi dà fastidio questa concentrazione. Mi avrà detta giusta una la Boldrini. Cioè, la Boldrini, a sentirte no, invece... la Boldrini è razzista nei confronti degli uomini. Ha un razzismo pazzesco, cioè proprio di un razzismo, ma ovviamente non il razzismo che intende lei, se non me querela. Non è il punto, non è questo, il punto è proprio di un razzismo anche in questa cosa qua. Il maggiore sforzo l'ha fatto la bambina, l'ha fatta lei. No, non l'ha fatta lei, l'ha fatta anche il padre. Sì, poi la natura vuole che la madre resti incinta. Vogliamo cambiare questa roba qua, no, signora questo Bottini. È evidente, ecco, siamo al top ragazzi, siamo al top. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. bredaportoni.com vi presenta la Zanzara. Tu sei un miserabile, dentro la brocca ci metterai l'acqua del rubinetto, manca la comprerai l'acqua minerale. Ma vai in culo Parenzo, state zitto. A me sembra proprio un programma per dementi, fatto da dementi, cioè di cosa stiamo parlando? Di cosa parlate? Cosa avete studiato? Siete laureati? Che cazzo fate tutto il giorno? Amico mio! Devi sapere, Davide, che nelle famiglie italiane, nelle coppie italiane, soprattutto giovani, c'è una grande diatriba. Cioè la donna di solito rifiuta l'ascolto della Zanzara, sì, anche sì, in podcast, mentre l'uomo chiaramente, un po' per giocare, un po' per mettersi in contrapposizione, spinge la donna ad ascoltare la Zanzara, sì. Questa è un po' la dinamica che accade, no? La donna alcune volte schifata dice, ma che sono questi qua, sono dei pazzi, sono della gente che non fa niente, certo, tutto il giorno, no. Io ti vorrei far venire qua, quella che parla, quella deficiente, esatto, che ha parlato prima, per vedere se uno non fa niente tutto il giorno. Comunque, però ti voglio però dare due notizie che sì, poi dimmi, svilupperemo dimmi nel corso della lunga diretta. Dunque, sì, intanto è arrivata qui in studio, ma è dietro il vetro, la Filippina di Parenzo in carne e ossa. Veramente? Te lo la giuro? Tua Filippina? La mia devi Filippina. Far parlare la tua Filippina. La faremo parlare nel corso della puntata. E la seconda cosa è che nel corso della puntata verranno date istruzioni su come apparecchiare una tavola classica. Cioè sì, quelle due, tre regole per cortesia che devono essere eseguite, cioè la tovaglia, i tovaglioli. Ti do solo un'anticipazione, che la tavola deve essere abbastanza grande tra un piatto e l'altro, sì, ci deve essere una distanza tra i piatti di circa 60-70 centimetri. Questo lo dico perché non lo sai chi mi sembri? Snob. Un ascoltatore mi ha ricordato che tu in questo sì caso sei, mi dando questi consigli sì ridicoli di lo cosa mettere un corno, è di l'estetica cosa, sì, dell'estetica, gusto, delle bottiglie di plastica da cancellare. No, no, no, no, non dirla anche quella parola. No, delle bottiglie di... No, no, no, no, no, no, no, no, no. Guarda, è volgare. Quello no, che però, fai è volgare. Senti che assomigli. Parenzo che dà lezioni di bon ton sembra quel frocione del Conte Galè di RTL. Che tristezza, mamma mia. No, però, ragazzi, quello è pure amico mio, signor Conte Galè. Conte Galè, amico, quel procione del Conte Galè. Effettivamente sembri un po' quando dai questi consigli sulla bottiglia di vetro, la bottiglia di plastica. No, ma, ma è per signor voi che Conte, posso effettivamente dire, non me ne frega niente. Ma è per voi che io lo dico, è per voi che lo dico, non per me, perché io a casa mia ho la brocca di vetro. Lo dico per voi, se invitate una persona, avete una fidanzata, cambia l'umore, cioè mangiare in un posto normale, bello, ma non bello che deve essere forza grande, enorme, ma con delle regole del la bottiglia di plastica è un abominio. Potevamo cominciare a diffondere questa cosa? Posso dire che quando si apparecchia una tavola ci deve essere una distanza tra un piatto e l'altro di 60-70 centimetri? Ma la gente non ha lo spazio che hai tu, c'è gente che vive in 30 metri quadrati, sei vergognoso, la gente ti salta addosso, la gente vive in 55 metri quadrati, io vivo in 55 metri quadrati. No, no, lo quel spazio, buco no, no, il tuo nel quale vivi, ma è sporco per colpa tua, nel quale vivi. Puoi apparecchiare una tavola e se siete in due puoi distanziare i piatti in modo tale da creare un ambiente confortevole. I tovaglioli, ad esempio, si mettono, ve lo diremo nel corso della puntata, a sinistra allora, del piatto. Allora, senti, voglio dire un'altra cosa sulla Rai. Si mettono a sinistra del piatto, mi fai i tovaglioli. Dire, se vado a mangiare a casa di qualcuno e trovo i tovaglioli a destra, mi alzo e me ne vado. Io perché spesso, è volgare. Io spesso utilizzo gli stessi tovaglioli di carta del giorno prima, anche un po' usati, diciamo. Ma se li ho usati solo da una parte, ma che schifo, stupendo. Ma che schifo, c'è la Filippina qua dietro il vetro. Che nella, dopo il telegiornale. Senti, ma ti pare normale che la Rai dica attraverso il suo presidente? Foto della Filippina, mandami la foto della Filippina, fammi dire una cosa, una sola cosa. Il presidente della Rai, che si chiama Maggioni, che io conosco da tantissimo tempo, ieri ha detto una cosa incredibile. Sei stato fidanzato con la Maggioni? No, ma non dire stronzate, non sono stato fidanzato con la Maggioni. Tu sei sempre un personaggio così eccentrico ed eclettico. Non mettere in giro queste voci, dai. Ho detto, assolutamente no. L'hai buttata là, la conosco da tanti anni. No, sai, ma la conosco io sono da tanti anni. Il presidente della Rai, Maggioni, che conosco da tanti anni, una mia amica. Bene, fa piacere. Non la sento da quando è diventata. Sei amico del presidente della Rai? Sì, ma non la sento da quando è diventata. Avete sentito, amici della Zanzara, camionisti? Lui è amico del presidente della Rai. Io, ad esempio, non la conosco. Ma io la conosco da tanti anni. Da quando è diventato presidente della Rai non ci siamo più sentiti. Però voglio dire che ha detto ieri una cazzata pazzesca. Vedi che non ho paura di attaccare gli amici, perché quando dici che senza la Rai, senza Fazio la Rai crollerebbe, è una roba ridicola. Ridicola. Non è che nessuno è indispensabile, nemmeno Fazio, chiaro? E poi è un'offesa nei confronti di tante persone che lavorano alla Rai, di cui non è che mi interessi particolarmente, però è un dato di fatto. Molti mi hanno chiamato incazzati, dice: hai sentito che ha detto la Maggioni? Ci ha massacrato perché ha detto che senza Fazio 13.000 persone potrebbero andare a casa. Questo è il punto, o no? Sì, o no? Mi interessa poco. A te non te ne frega niente? Non nulla, nulla, meno di nulla. Ma c'è un pezzo di amici miei che parla proprio sotto coppie di vetro, esatto. Senti, perché non ci metti delle sottocoppe di vetro? È vero, quando si mette la sottocoppa... E poi sono anche pratiche, si mettono sotto il bicchiere. Per carità, guardi che in questa casa non si può parlare di sottocoppe di peltro. Carlo da Roma, vai. Carlo. Oh. Russo. Dimmi, Carlo. Ciao, mi senti? Ciao, buonasera. Sì, senti, io volevo volevo chiedere una cosa. Ma quando è stata la figlia a Parenzo? Lui ha fatto auguri. A chi gli ha fatto gli cosa auguri? Dice, scusami, questo? A chi? A Parenzo gli ha fatto auguri. Perché? Tu, che ha fatto? La figlia. Sì, gli ho fatti, certo che gli ho fatti. Perché lui invece doveva fare DNA, no auguri, gli doveva fare DNA. Ma no, questo è anche capito. Divertente. Sì, poi volevo dire una cosa, ma ieri sera a difendere i negri di Parenzo del fatto che quelli stavano a protestare perché faceva caldo, la mangiare non era buona. Sì. Ma tutti che stati italiani che stanno in mezzo alla strada, che lavorano su asfalto, sti camionisti dentro dentro i gambi. Tu sei camionista, no? Sì, camionista. Quando ti fermi all'area di servizio la sera, che siamo tutti ammucchiati lì, magari trovi quello zingaro che sta a mangiare lì, che si embriaga come che, capito? Sì, capito. Perché non li guarda questi. Aver trasformato la radio della Confindustria nel megafono della Confindustria, parla male dei industriali, del fatto della plastica, sta parlando con lui, fare il bonton su come si apparecchia la tavola. Calmi, non ho capito una cosa, Carlo. Mi sembra di ricordare, perché il tuo ultimo intervento risale a qualche tempo fa, che tu sei un camionista molto fascista, se non sbaglio, no? No, non cominciati, molto di destra, molto di destra. Molto la di maggioranza destra, silenziosa, quella che Parenzo chiama la maggioranza silenziosa. Il concetto, però, sono tutti, stai pur tranquillo, che sono tutti mussoliniani. Quella è la tutti maggioranza. Ma cosa e dice? Te l'hanno dimostrato, che hanno fondato un partito. Capito? Quella è la maggioranza silenziosa, perché se ritorna Mussolini, io penso se farebbero un referendum al 90% i politici tanto come Berlusconi nel 94, abbiamo un milione di posti, ma che milione di posti, Peppe Grillo adesso vedi che fa, ci vuole solo Mussolini, Renzi quello che ha fatto, ci vuole solo Mussolini, apposta Livorno Mussolini alla gente, Livorno, dove vai. Si parla sempre di lui. Allora fermo un attimo, ti richiamo io tra un quarto d'ora, così mi spieghi meglio il concetto. Altro, sì, mi spieghi meglio non ce il da spiegare. Concetto. Dai, Zucchero, non si molla un cazzo. Siamo tutti con te. Zucchero, la la la. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta La Zanzara. Parenzo, prima o poi te vengono a scasso tutto. Merita una riflessione questo. Renzo, si vede che c'è la servitù. 20-30 euro, pochi euro. Sono pochi per una brocca, ma chi te la fa la spesa? Non l'hai fatta mai, si vede che non l'ha fatta mai la spesa. Boh. Parenzo, allora quando fai la doccia ti fai massaggiare le spalle, ti fai lavare dalla servitù? Perché devi fare questa fatica, visto che bevi l'acqua dalle brocche? Luciani, fallo stare zitto sto passerotto qua, cazzo, ci ha rotto la minchia con tutte queste tavole e tovaglie, dai, ciao. Miserabili! Allora, caro Parenzo, una segnalazione che ci viene dal sito dagospia.com. Sì. Allora, sarà nulla tenente, ma allo shopping in via Monte Napoleone non rinuncia. Gianni Zonin, principale responsabile del crack della Banca Popolare di Vicenza, non vive barricato nelle sue tenute per timore di incontrare risparmiatori rovinati, gira per i negozi di Milano con la moglie. D'altronde è intestato tutto a lei e ai figli per sfuggire ai risarcimenti. Si vedono le foto del signor Zonin in giro per Milano. Beh, caro Parenzo. Ma tu ti incazzi un po' per queste cose, molto, almeno molto, o no? L'ho detto più volte. Ti incazzi un po' per queste cose o no? Assolutamente, l'ho detto anche ieri quando ho incontrato i risparmiatori, alcuni risparmiatori di Veneto Banca, che con l'avvocato, che andrebbero bloccati i patrimoni di questo signor Zonin, andrebbe bloccato il patrimonio, gli andrebbe sequestrata la casa e quindi andrebbero presi da lì purtroppo i soldi. Purtroppo non si può fare perché lui è stato molto bravo, molto furbo. Intanto nel campo Rom di Castel Romano, si passa dal signor Zonin da Banca Veneta. Roma al giorno, va bene. Assolutamente, no? Assolutamente. Sì. È un problema da risolvere sul territorio concreto, come direbbe Brunetta. Concreto, Castel Romano, senti. Da 40 giorni che manca l'acqua qua e i container con quest'estate a 40 gradi. Avete già visto, come avete intervistato con la telecamera, si muore di caldo sia della mattina che di notte. Nel campo Rom di Castel Romano si muore di caldo. Arriva l'acqua. Sì, ma mi pare chiaro. E non credo che questi qua paghino. Acqua mi pare pubblica, un appello giusto che hanno fatto. Pagata da noi. Anche nelle case popolari c'è un prezzo di favore. Andiamo avanti. il problema, abbiamo chiesto al comune, all'amministrazione, che chi è responsabile di questa cosa, perché ci sono 400 container, ci sono più di 500 bambini, e che qualcuno ci dia una risposta a queste situazioni per risolverle. I Rom sono da 40 anni in Italia, non sappiamo dove andare. Beh, amico mio, abitante del campo Rom di Castel Romano, abitante a noi ignoto, abitante anonimo del campo Rom di Castel Romano, c'è una sola soluzione, un'unica soluzione. Sei italiano? Abiti in un campo Rom? Fino adesso ti è stata facilitata la vita per il fatto che vivi in un campo Rom? Probabilmente sì, non hai pagato nulla di affitto, eccetera. Magari ti sei arrangiato nella vita con piccole cose, non voglio dire nient'altro, con piccole cose. L'unica soluzione, l'unica possibile cosa che devi fare, è solo una. Levarti da quel campo Rom, andare ad abitare in un posto normale. Per farlo cosa devi fare? Uno, consultare le pagine degli affitti in un normale giornale, come fanno tutti, consultare i siti internet dove ci sono affittasi, eccetera. Trovarti un lavoro. Cose che fanno il 99,9% dei cittadini italici di questo paese. Immagino che anche tu, signore, che parli da un campo di Castel Romano, sei italiano. Qui non si è razzisti, qui a noi concruciani, alla Zanzara, Parenzo chiaramente è dalla parte tua, no, è pieno Parenzo, di umanità, è pieno di umanità, è, pieno di umanità. È una questione sociale, una bomba sociale, una che dobbiamo bomba risolvere. Sociale. Sì, non ti, a te ci è una roba molto, ai sì, ai matti, è una roba sì. molto chiara quello che bisogna fare. Non si è razzisti sì. nel dire sentilo, che questo signore sentilo, deve sentilo, togliere le sentilo, tende sentilo, dal sentilo, campo sentilo. Rom ecco, di Castel Romano in questo caso. Prendere tranquillamente le sue carabattole insieme ecco, alla famiglia, carabattole, appunto, certo, assolutamente, pensate. Le sue carabattole, i suoi effetti personali, effetti insieme personali. Alla famiglia, proprio cose, non vivere più in una baracca, in una roulotte ecco, dove ogni tanto manca l'acqua, Cruciani, bensì andare a consultare, a compulsare internet per trovare un affitto, come fa, ripeto, il 99,9%. Dei cittadini italiani. Quanto questo... populismo. Ma che è populismo andarsi a cercare una casa? Cosa incredibile. È populismo andarsi a cercare una casa. Allora, queste, come direbbe il professor Fusaro, queste moderne conflittualità contemporanee. Non si capisce un cazzo. Ma no, mai, senti, niente. Senti. Niente. I Rom vivono 40 anni in Italia, è sempre la colpa di qualcuno, sempre dicono la CEA, il comune, l'amministrazione, e i Rom non sanno dove bisogna andare o a chi bisogna rivolgerci. Buonasera amico Rom, sono Parenzo. Allora, ecco, Carlo, grazie dov'è? Anche per montare sempre, come dire, no? Mettere sempre certo. questo audio Carlo! Che genera. Carlo! Ma quell'imbecille! Che è successo? Sento sotto Parenzo, sento. Che è successo? Niente, sono arrivati innanzi 12.000, Dove? Innanzi 12.000. Ah, nei porti nostri, sì, nei porti nostri. Sono arrivati innanzi 12.000. Che dici tu, il camionista di Roma, dici? Un po' mussoliniano, che dici? No, ecco, esatto, un po' mussoliniano. No, mussoliniano, sì, molto, no, un po', molto mussoliniano. Molto mussoliniano, sì, niente, che dico, innanzi 12.000, dai, dopo così. Andiamo così che andiamo alla grande. Che faresti tu? Che faresti tu? Spiegami. Niente, io abito a Roma, mo' gli porto l'acqua a quello là. Dai, vai, vai, sì, al, vai al campo di Castel Romano. Vado col camion, io c'ho un autotreno, no? Vado lì col camion, li carico tutti, li porto dentro l'acqua. Da dove siete venuti? Dall'acqua. E che l'acqua ve li do. No, questo non è bello. Tu li vuoi scaricare e affogare praticamente. Che persona miserrima, che persona schifosa, salva, però, che persona violenta e schifosa. Ma quelli che vanno Parenzo gli insegna, gli fa una lezione, perché ha visto quando vanno sui sci, fanno le lezioni gratis questi. Beh, adesso gli fa una lezione di nuoto, no? Ma cosa dice? Se te servi, se non te servi chi se ne frega. Ha visto Parenzo, è morto un bambino, ne sono morti due a Roma. Due, una a Roma e una a Teramo. Sono morti, non ma ne parla c'entra? Parenzo. Ma come ne parla? Ma cosa c'entra? Due ne sono morti. Come ha detto, dei bambini. Scusi, come zozzo, perché? È morto un bambino, sì. Beh, in mare. Ma è città 26 anni. Capirai, piacazzi ad Africa, i piacchilometri, no, no, lei è un cretino. Lei è veramente un cretino. Su una tragedia, su una tragedia come questa. Lei è un povero imbecille. Aspetta, fammi vedere dove usci. Imbecille. Speriamo, speriamo il minimo. Ma io non ti incontro mai. Ma scusa, Carlo, come fai a dire che la madre di ragazzino morto ha fatto quello che ha fatto? non lo voglio nemmeno ripetere. Che signor, che schifo, ma come fai a dirlo? La guerra, stanno a scappare, la povertà, ma come fai a mettere al mondo tutti questi figli? Che non c'è occhi per mangiare, non c'è niente, e invece metti al mondo figli, metti al mondo figli, ma come cavolo, ma è sento possibile? Sto imbecille, insensibile, ce l'hai cretino, ancora Parenzo, insensibile, ma lo senti che te vomita sotto, lo senti insensibile, ma perché sta zitto? Ogni volta che il virus, parli, il virus del terrore, della paura, il virus dell'ignoranza parli, è penetrato ormai. Cruciani è un diffusore di virus. Adesso arriva la Filippina, ti gliela presento. Eccola qua la Filippina, ce l'ho qua il Filippino, è arrivato, venga dentro qua. Ma che c'è dentro? Non fate più la plastica, invece che fai? Per la plastica la comprate. Sei contro le bottiglie di vetro. Certo. Allora, caro imbecille, ti do una piccola lezione di vita. Ti do una piccola lezione di vita, povero imbecille. Prendi nota, prendi ma che vedi. Prendi nota, imbecille, prendi nota. Ti spiego un attimo che sta dicendo. Un poveretto. Allora, vai a dire a Boccia, chiediamo i soldi ai rom che ce l'hanno. Ma che lasci stare, Boba, che c'entra Boccia, imbecille. Sciacquati la bocca quando dici quel nome, imbecille. Sciacquati la bocca. Allora, ti voglio intanto dire questo. Impazzito, Carlo, ma che è impazzito sei? La tovaglia, regole per apparecchiare la tavola. Oggi affrontiamo il tema tovaglia, nei prossimi giorni tovaglioli, eccetera. Ma lo sa Carlo le regole? La tovaglia può essere di qualsiasi tipo, cotone, lino, con dei disegni però, mi raccomando, a tinta unita. La tovaglia si adatta ovviamente all'importanza del ricevimento che voi state preparando. Allora? Inoltre deve avere la stessa forma del tavolo, può sembrare una banalità, ma la tovaglia deve avere la stessa forma del tavolo, cioè rettangolare, tondo, ovale o quadrata. Deve essere, attenzione, perfettamente stirata e deve avere una caduta importante, laterale di 30 centimetri circa. D'accordo. No, non è però scontato, dopo questa prima lezione vorrei scontato. Un attimo liquidare c'è la Carlo. Filippina, c'è la Filippina. Vorrei liquidare Carlo. Ciao Cruciani. Ciao, ciao, c'è la Carlo. C'è la cena di questa sera la Carlo, Filippina. Carlo, tu bevi nelle bottiglie di plastica? Sì, io noi tutti i camionisti ci dobbiamo bere, perché non è che ti può portare quella di vetro dentro al camion. Sì, c'è qualcuno che ce l'avrà, però ma io a tavola quando sei a casa bevi nelle bottiglie di plastica? Sì, naturalmente, non è che bevi nelle brocche. No, un attacco le bottiglie, beh, c'è l'aranciata, la Coca-Cola. Sì, ma Coca-Cola, aranciata, mamma mia che bevande. Durante una colazione o una cena si chiama colazione, quella che lei chiama pranzo si chiama colazione. Io l'unica cosa che bevo è la birra al limone, figurati che sei. Subito sono semio, non bevo, che devo fare? Ma la Coca-Cola, che devo fare? Ora... questa è un'altra cosa, è un'altra pecca, perché un semio deve aranciato Coca-Cola. Senti, ma io non ho capito la tua soluzione. Vabbè, ma stai calmo, la tua soluzione finale dei campi rom, quale sarebbe la soluzione finale per i campi soluzione rom? Soluzione finale è una brutta parola. Detto, ma io sto con Salvini, al 100% con Salvini. Ruspa, bella ruspa, come hai detto te, va a cambiare la pagnotta, ma io ho 61 anni, senti, sono suonato treno. Ecco che suona. Ma stai suonando, suona un attimo, fai una bella suonata con stato treno, vai con la suonata. Fammi sentire la suonata, fammi eccoli qui. Amici, c'è qualche deficiente, quelli gemelli diversi. Mi ferma, poi fanno i verbali. Dai. Meno male, speriamo. Va che ti facciano un bel verbale. Non ti possono levare niente perché ti sequestrano tutto. Come non c'ho la patente? Che te puoi fermo il cervello? Il cervello, ma non lo trovano. A te ci hanno da levare, tu c'hai proprietà. Tu c'hai proprietà che proprietà non te le fatte manco con il sudore. Nessuna proprietà c'è. Forse che proprietà con il sudore della lingua, a forza delle cariche i potenti. Posso però chiedere la cortesia di non bere né a colazione né a cena bevande gasate tipo Coca-Cola. Fermi tutti. Qualcuno mi... Sì, certo. Sono Parenzo. Per lasciarti andare. Handicappato, malato di mente, di centri sociali, bruciarli tutti col napal. Suona una fisarmonica col napal. Fiamme nel campo rom. Napal. Tua madre lo diceva, non andare su YouPal. Napal. No, io ti ho parlato dolce e semplice. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Parenzo! Parenzo, pezzo di merda, per colpa tua mi stavi facendo comprare le caraffe di vetro mia moglie, bastardo. Vorrei chiedere al dottor Parenzo come vede pentole e padelle con il cucinato in tavola, perché a me capita quasi sempre di portare le padelle e pentole sulla tavola. Beh, questa è un'indicazione importante. Le pentole sulla tavola sono fondamentali spesso, Parenzo, no? Oppure no, sono proibite? Una... di una volgarità inaudita. Non si portano pentole, no, ma no. Si portano piatti di portata, cioè vanno serviti nei piatti apposta che ci sono, cioè, la pentola, tavola. Le pentole prese dal fuoco direttamente portate Gomorra in tavola non va bene. Gomorra. Campo Rom. Gomorra. Campo Rom. Quella... sì, nei campi Penso Rom stanno hanno antipatici le campi pentole. Rom. Sì, assolutamente. No, ma dico, lì ognuno ha le sue cose. Nei campi Rom si portano le, beh, anche a Gomorra, le pentole a tavola. In realtà tu la pasta, quando la condisci, la devi mettere in quei recipienti, sì, possibilmente sì, sì, di ceramica o altri contenitori, ma che fanno parte del cosiddetto servito, no? Non ragazzi, la cosa a tavola. Ma dove sei? Ma che roba è? Comunque c'è la Filippina qui che ti dirà, eccola che è arrivata qui, che ti dice il menù di questa sera del dottore. Vai, vai, allora, vai. Cluciani, stasera menù sobrio per il dottore. Tortellini li passati nella fonduta di parmigiano leggiano al profumo di noce moscata, più vino freschissimo, come piace al dottore, ligolosamente Brava. Freschissimo, in calice ovviamente, acqua in blocca, attenzione, blocca. E ha preparato anche una piccola poesiola per te, la mia Filippina, che è molto brava. Agevoliamo la musica. Sì, mi pare una Filippina... Sclozzavi acqua e candeggina nel bagno di Cluciani. Me l'ha detto dottore, ma non va via niente, c'è glande in clostazione. Finita. Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupo. Ma questa Filippina sì, di Parenzo sì, mi sembra sì, con la voce un po' equivoca. Ma equivoca no, ha una voce un po' maschile questa Filippina. Anche un'altra vita, perché figurati che è studente all'Università di Scienze Politiche del professor Ceccanti, che è il grande professore. Sì, sì, ti giuro, il professor Ceccanti, lui no, è la Filippina laureanda presso gli uffici del professor Ceccanti, grande costituzionalista. Massimo del da Milano, PD. Vai, ecco. Vai, Massimo. Grazie, vada a casa a lavorare adesso. Sì. Perdere tempo alla radio. Vada. Pronto, vada Massimo, vada a casa, salve, cazzo, salve. Su a lavorare che stasera c'è signora gente, Filippi, su. Non allora, può equivocare. Continuo a parlare, Cruciani, per favore non difenderlo stavolta. Su che cosa, su che cosa? Sì, continua a parlare, sono qui per questo. Sull'estremo razzismo di quell'uomo che hai ma accanto. Razzismo, ma anche non avete capito che è molto più razzista lui di me. Cioè, no, il Bonton, i campi Rom, tu hai un razzismo pazzesco. Gomorra è un razzismo. Ma lui quante volte è andato in un campo Roma a fare a ma sì, ci sarà andato un paio di volte a fare dei servizi. No, sempre, sempre. Perché non glielo va a insegnare? Che si mettono i piatti a 70 io sono capace di dormire in una roulotte in mezzo alla merda. Ti farebbe schifo a cosa te. Ti farebbe schifo dormire. No, ha detto una bestialità. Cosa ha detto a 70? Ma cosa ha detto? I piatti. Ho detto la distanza tra i 60. Sì, no, ma la distanza tra un piatto e l'altro, tra un posto tavola, deve essere tra i 60 e i 70 centimetri massimo. Massimo, ma sì, dai, ma c'è gente che vive dentro ai campi Rom. No, ma loro fanno altre. Loro, livello di loro vita, hanno altre usanze. Così. Io dico che. Signor Parenzo, loro hanno altre usanze. Parenzo, perché oggi prende le distanze? Perché oggi loro? No, ma io, non è, io dico loro? Che per noi che, come dire, viviamo in questo per mondo, ad esempio, cosa, razzista, per i tovaglioli, noi i tovaglioli si mettono a siamo sinistra del piatto. Uguali. I tovaglioli te li devi mettere in bocca. Così io non capisco perché c'è sia questa aggressività rispetto a come si prepara una tavola. Questo veramente non capisco. Sai perché c'è l'aggressività? Allora, perché le dico, le insegno una cosa, guarda. Il professore Cruciani sì, dice, Massimo, hai rotto i coglioni, adesso ciao, vuoi mettere tutte le... Non sono in grado di proteggere nemmeno me stesso, figuriamoci se posso fare il protettore di Parenzo. Fermi tutti. Ma è improtettibile, non è protettibile. Fermo là, fermo. Questo è un uomo che... classica persona che beve nelle bottiglie di plastica, è evidente. Intanto a Castrovillari, paese della Calabria, si incazzano per l'arrivo di 25/50, forse 70 migranti. Castrovillari. C'è un signore che si chiama Leo Battaglia del partito della Meloni, che dice gente malata che porta malattie. Gli immigrati, sentite. Gente che non sappiamo chi sono, gente malata, portano malattie per i nostri cittadini, stanno nel cuore cittadino, è una vergogna, nessuna città prende nel cuore cittadino, non ci sia prefetto che tenga che possono portare persone nel cuore di Castrovilla, di vergogna, Lopolito, vergogna, dimettiti! Lopolito sarebbe ovviamente il sindaco di quella località, invaderanno Castrovilla. Oggi è ufficiale, a Corso Garibaldi, confinante casa mia, nel cuore cittadino, arrivano immigrati, invaderanno Castrovillari, il silenzio dell'amministrazione comunale. Siccome arrivano accanto a casa sua, è incazzato come una belva. Allora, io non capisco perché il Papa se la piglia contro le pensioni d'oro. Adesso non si può parlare sempre di tutto, però. Cioè, il Papa, il signor Papa, dovrebbe un po', insomma, tenersi, no? Come fai a spiegare, cioè, dovremmo un po' limitarsi. Di cosa deve parlare? Sì, va bene, parla del lavoro. Si occupa di temi sociali. Le pensioni d'oro, amico mio, le pensioni d'oro. Ma siete pieni di soldi fino a strafottere al Vaticano. Dai, vi escono da tutte le parti, e non voglio dire da dove. Vi escono dappertutto, i quattro, siete pieni di proprietà. Fino alla cima dei capelli. Siete pieni di soldi, di proprietà. Avete pure i cappellani militari o i cappellani pagati dallo Stato con delle pensioni pazzesche. Ma dai, su, il Papa contro le pensioni d'oro. Ma sembra ridicolo. Con tutte le proprietà della Chiesa, con tutte le ricchezze della Chiesa, protesta contro le pensioni d'oro. Ma è incredibile o no? Che il Papa, con le immense ricchezze della Chiesa, protesta contro le pensioni d'oro. Rompe i coglioni al nostro sistema pensionistico. Saranno affari nostri, no, come regoliamo le pensioni? Scusa, o se ne deve occupare il Papa? Perché il Papa si occupa delle pensioni d'oro? Pensasse ai problemi del Vaticano. In tema di soldi ci sono un sacco di problemi da risolvere al Vaticano. Perché c'entra? Si occupa delle nostre pensioni d'oro? Cosa gliene frega delle pensioni d'oro? Ma cosa vuol dire? Ma si occupa di temi sociali come si è occupato di Ski Italia? Mi fai incazzare questa cosa. Come si è occupato di tante altre cose? Sì, di Mediaset, dalla sede di Roma. Appunto. Dai, su, ma è patetica questa cosa. Dai. Come fai tu a giudicare il Santo Padre patetica, in questo modo? Dai, ma guarda che sei un personaggio incredibile. Eh? Vai a leggere una cosa che c'è online. Ecco gli stipendi d'oro dei preti militari pagati da noi. Le pensioni di oro sono un'offesa al lavoro non meno grave, un'offesa al lavoro non meno grave. Le pensioni di oro, bellissimo, le pensioni di oro, dice, le pensioni di oro. Qui ha scritto qualcuno, naturalmente, no? Sono discorsi che li scrive qualcuno, ma però... Cosa vuol dire? Ma non può fare l'anti... può fare Grillo? È come Grillo il Papa che si mette a rompere i coglioni sulle pensioni d'oro? Adesso si comincerà a parlare dei vitalizi fra poco. I vitalisi sono uno scandalo. Ma dai, insomma, è come Grillo. Le pensioni di oro. Bellissima questa cosa, no? Ma cosa dici? Sì, il Papa è come Grillo. Come Grillo. Le pensioni... Guarda che tra i due c'è una certa vicinanza. Le pensioni di oro. Beh, sicuro si proclama francescano. È sempre... Grillo francescano, beh, quello c'ha la villa in Sardegna, almeno certo, il Papa. Però questo è il punto, no? Cioè, questa è il fil rouge che comunque, c'è tra i due. La cosa importante, le pensioni, vi prego, di oro. Ma chi è? Un grillino qualunque di Battista? Sì. Di Battista, chi è l'altro? Chi è? Di Maio, che si batte contro le pensioni d'oro, contro i vitalizi. Parla di pensioni d'oro. Ma parli di cose più alte, il Papa, no? Ho dimenticato di dirvi che i tovaglioli, oltre a mettersi a sinistra, devono essere quadrati e di 40 centimetri per lato. Non devono mai essere di carta, almeno che il ricevimento non sia informale. Cioè, i tovaglioli di carta possono andare bene al massimo in un buffet. Quando hai un buffet con 50-60 persone, è chiaro che devi ricorrere ai fagioli di carta. Vabbè. Però anche su questo faremo una lezione a parte, su, in casi eccezionali, che tipo di tovaglioli di carta utilizzare. Ma sono casi eccezionali. Cristian da Trieste, vai. Grazie. Cristian. Luciani. Dimmi. Ciao, scusami. Ecco, volevo dire che uno il principe della di carta, lì che hai vicino. Eccolo qua. No, uno che sicuramente mangia con le mani. Un attimo, prego. Se neanche cos'è la posata del pesce. Volevo dire questo, che una tavola apparecchiata bene ti fa gustare meglio il pasto che stai andando. Questa è l'unica cosa che ha detto giusta, perché in realtà Ha ragione lui, perché no, adesso col tovagliolo quadrato, ragazzi, ma uno mangia come viene, come no, viene, però, dai, non è che pensi alla bronca, al tovagliolo, l'estetica, no. L'estetica, l'estetica nel vetro è migliore dell'acqua. Bravo, nella meno male, ma meno chi male, l'ha detta meno sta cazzata, è una minchiata questa. Meno male, meno male. Anche le bibite sono meglio, sono buone, si mantengono. Ma non è vero, è falso, meno male, meno male. La bottiglia di plastica, uno che porta la bottiglia di plastica, mi alzo e me ne vado. Ma che stiamo scherzando? Ma mi alzo e me ne vado io. Ma no, è questione. Una tavola apparecchiata ti fa gustare bravo, meglio. Bravo, no, esatto, bravo. Vedi che c'è, c'è il buon gusto in questo paese. Facciamolo venire fuori un po', raccontiamolo. No, è evidente che se cominciamo a dire no, il tovagliolo 60 centimetri, 70 centimetri, poi ti mandano a quel paese. Però è un ragione, passo no? In più da imparare, un piccolo passo in più, vedrà. Però devo dargli atto che questa cosa bene, qua uno dovrebbe imparare anche quando ha degli ospiti esatto, a casa. Bravo, bravo. Vabbè, ragazzi, io devo chiamare un signore. Mi fate invece mi perdonate se interrompo questa aurea conversazione sui tovaglioli da mettere a tavola qui alla Zanzara. E sono sì. 3 giorni che ci sfrantumi i coglioni su questa cosa, che va benissimo, per carità, perché molta gente mi ha chiamato, eccetera. Però adesso non è che ci si può mettere a discutere sulla distanza, va benissimo. Sono piccoli aiuti che vi do per cominciare allora, a allora. Io voglio chiamare Alessandro De Simone. Alessandro De Simone è quello del famoso striscione Viva la Fica a Latina durante il Gay Pride. Sì, ho un appuntamento con lui, lo voglio chiamare perché la Cirinaglia ha detto che ha bisogno di essere rieducato in America, perché qualcuno sì. dice che è macista, qualcuno dice che è sessista contro le donne. Invece quella roba lì messa durante il Gay Pride è una straordinaria creazione, una cosa quasi futurista, lo striscione Viva la Fica. Pronto? Alessandro? Sì. Sono Cruciani, ciao. Oh, buonasera, dottor Cruciani. Come andiamo? E Parenzo, bene. Buonasera. Buonasera a lei, signor Parenzo. Allora, lei è l'autore dello striscione Viva la Fica, che è stato esposto durante Gay Pride. Sembra che abbia incendiato l'Italia questa cosa. No, no, io ho difeso strenuamente un atto di libertà. Com'è che ti è venuto in mente di... Mi è venuto in mente per una semplice esigenza che credo ogni persona abbia nel momento in cui sente di poter dire, manifestare e a volte anche testare qual è la reale dimensione della libertà d'espressione, no? A parte che poi non era né contro niente e nessuno, è come se avessi scritto Viva la mamma, forse qualcuno si sarebbe incazzato perché forse le mamme non sono più di moda o che ne so. Voleva però fare incazzare qualcuno che sfilava durante il Gay Pride. Sicuramente l'idea non è casuale di esporlo certo, contestualmente a quella cosa lì, perché altrimenti, cioè, visto che... Ma cos'è che Gay Pride? Perché, però, perché non va secondo te Gay Pride? Scusami. No, io non ho detto che non vada al Gay Pride, io semplicemente, essendo un eterosessuale, loro dicono la loro, io dico la mia. Ci sarà qualcosa che non ti piace, evidentemente. E alcune manifestazioni di questa platealità legate a quella modalità di costume, dico, possono in alcune circostanze, visto che gli spettatori sono di varia natura, tra i quali anche bambini, magari destare qualche piccolo, diciamo così. Cioè, secondo te alcune cose sono volgari dei Gay Pride? Beh, alcune cose, a meno che uno non abbia invertito dei canoni, diciamo, di pudore, decenza o quant'altro. Ma perché invece, scusi, è decente mettere uno striscione con quella parola, con quella lo striscione parola, non offende nessuno, però. Che tu, però lo leggono anche i bambini, quindi Parenzo, se l'obiezione, ma se caro lei... signore mio, certo. Se lei dal balcone in pieno centro sventola quella meravigliosa parola e quel meraviglioso come dire organo che tutti noi eterosessuali convinti amiamo in quella volgarità con quelle volgarità proprio antiestetico, volgare, grossier, chiamatelo come vi pare, come desidera lei, non è un problema. Quello striscione lo trovo volgare quasi quanto avere su una tavola imbandita una bottiglia di plastica, lo stesso livello di antiesteticità, volgare, brutto, sciocco, macista. Macista? Perché macista? Sì, macista, anche macista, posso dire. No, anzi, è un inno alla femminilità, mi perdoni. Anche macista. Anche macista. Inutile. Anche perché nulla. I bambini, i ragazzi che passano su dicono, oh, guarda cosa ha scritto quel signore. Beh, viva quindi la figa, se lei, allora? Quindi se lui, no, ma se lui gira e vede quello col birillo di fuori, che dice la mamma: mamma, ma no, il birillo di fuori. Cosa è successo quando sono arrivati i carabinieri? È successo che mi hanno suonato a casa e mi hanno detto se ero io l'artefice. Sì. Io ho risposto sì, li ho invitati in casa, chiaramente. E niente, mi hanno chiesto semplicemente ingiunto di togliere lo striscione. Io mi sono rifiutato. Sto parapiglia è andato avanti per una ventina di minuti. Dice: faccia la cortesia, è una questione di decoro. Io sono d'accordo con lei che è una questione di decoro. Dico: ma decoro, dovremmo ridipingere le strade della città, dovremmo andare a cancellare le scritte, dovremmo chiudere su certo, questa logica. Certo, su questo non c'è dubbio. E niente. E alla fine l'ha tolto? Alla fine l'ha tolto. No, gli ho consegnato un paio di forbici, gli ho detto toglietelo, insomma. Ah, l'hanno tolto loro alla fine? Sì. Sì. La Shirinà, che è la madrina delle coppie gay, del matrimonio, dell'unione civile, eccetera, ha detto addirittura che lei dovrebbe essere rieducato. Esatto. Cioè, se esistessero, come negli Stati Uniti, delle vere pene rieducative, gli farei fare un bel corso presso una delle nostre case rifugio. Esatto. Per le donne vittime di violenza. Esatto. Come se lei avesse incitato alla violenza nei confronti delle donne. Questa è l'altra cosa ridicola del mondo. Ridicola. C'è un po' di livore che secondo me è eccessivo, e credo che il corso di rieducazione, come ho scritto, dovrebbe farlo lei in tema di materie di democrazia e libertà di espressione. Siete volgare, gente volgare. Scusa, ma qual è la volgarità nel fare uno striscione con scritto viva la figa sopra? Ma lo spieghi qual volgare, è la volgarità? Inutile, macista, stupido. Macista, vuol dire? Io posso capire che tu dici volgare, ma macista, perché macista? Macista, viva la figa, vuol dire? Parenzo, forse per una volta dovremmo trovarci tutti comunemente d'accordo sul vero focus di questa questione: la libertà d'espressione. Ma certo, il fatto che sia stato uno può giudicare anche volgare. Io no. Ah, tu lo puoi giudicare volgare, d'accordo. Dopodiché farlo rimuovere, secondo te, è giusto, Parenzo? No, assolutamente sì, te l'ho detto fin dall'inizio. Cioè, farlo rimuovere è giusto. Uno mette uno striscione, sì, viva la figa, rimosso, è giusto. E anche dare di mentire, signor Parenzo. Anche... Ma no, ma perché io posso perché essere d'accordo con lo spirito che lei... Il giornalista ne sarebbe veramente io posso beh, essere... vero, ha ragione. Non è una battaglia di civiltà. È una battaglia, è una stupidata. Può dire, lei può svolgere il suo onorevole mestiere perché c'è una sedicente forma di libertà. È libertà dell'espressione. Ma quale libertà dell'espressione? Lei veda, quando lei va a vedere il magnifico quadro dell'origine del mondo che rappresenta quella donna... Sono cose diverse. Lei si gira dall'altra parte perché lo no, tutt'altro, vado al no, ma tutta una grande opera d'arte, vado al museo a vederla. Quando invece passo sotto il suo balcone e vedo quella scritta così volgare, da autogrill. Scena, no, scena. Da autogrill, una scena da camionista, penso, da autogrill, da passaggio della metropolitana. Bagno, d'accesso pubblico, d'accesso pubblico. Dico è volgare, inelegante. La senatrice Shirinà, dice che questo signore dovrebbe essere rieducato negli Stati Uniti, certo, con un corso per le donne vittime di violenza, è capito? Impressionata da Pol la Pol, rieducazione, una specie di cosa, sì, un po' da rieducazione comunista. Si toglie alla fine, dice: ahimè, non, purtroppo il signore non incapperà in sanzioni penali. C'è rammaricata di sta cosa. Però io voglio chiederti una cosa: cosa voti, se vuoi? No, ma è ininfluente perché. Lo so, ma voti a destra? Voto il partito della figa, arrivato a sto punto, non lo so. Ma perché voto veramente il partito della figa? Io sì, combatto in questa trasmissione da 7 anni la orribile volgarità di un uomo che mette uno striscione patetico, macista, volgare e vergognoso, ma rendendo quella cosa straordinaria, quella cosa straordinaria che è quello oscuro oggetto del desiderio di tutti noi, rendendolo merce. Questo lei ha fatto. Anche le donne stasera. Questo lei ha fatto. Lo rifaresti? Assolutamente sì. 100 volte. Un milione di volte. Perché voglio libertà. Poter esprimere libertà di dire anche una volta. Cazzo mi pare. E nei limiti della decenza, perché figa è una parola in uso corrente, esatto, all'interno di questa decenza, al di là netto dell'ipocrisia, poter dire ciò che voglio senza incappare in logiche da gestapo, cosa che è successa fino alle cariche istituzionali. Grazie a lei. Ciao Alessandro, buona serata. Ma lo sai che io do ragione, non al 200%, a parte la volgarità del gay pride, io non sono d'accordo. L'unica cosa su cui non sono d'accordo è quella, e non l'ho mai scritto, non l'ho mai scritto in quell'articolo l'altro giorno sul Libero. Il punto non è quello, sono d'accordo al 100%. C'è la logica per cui una signora che si chiama Shirinà, senatrice della Repubblica, madrina delle coppie gay, cioè io sono d'accordo su tutto, anche poco hanno fatto rispetto a quello che avrei fatto io. La logica per cui dice che questo signore ha bisogno di essere rieducato. Rieducato perché fa uno striscione goliardico, un po' di provocazione sul via alla figa. Goliardico, ma non ragazzi, è goliardico. Dai, tu sei d'accordo sull'irruzione della polizia là dentro? Ma dai, ma beh, sei patetico. Sì, quello dai. Va tolto, va. Ma brutto. Che va tolto, dai, su, ci sono tante volgarità in giro. Dovremmo. Ma questa poi non è nemmeno una volgarità. Bisognerebbe, come dire, riacquistare il gusto del buon gusto. Questo ti voglio dire. In tutti i settori, dalla tavola. Sì, sì, no, ma in tutti i comportamenti della vita. Il gusto del buon gusto. Grazie. Cosa sta dicendo quel mostro? Ecco. Niente, mi feci fare un pompelmo da era un piatto, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans. David sta andando a trans. Non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans. David sta andando a trans. David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con Etherball. Ah, e vabbè, vanno a trans. Se si divertono a prenderlo a quel posto, che io. La zanzara. Quello gli ha fatto togliere il cartello Viva la Fica. Questi qui invece possono andare in giro con mezzi bambini, perché sono fotografati con bambini. Quattro cazzo di culattoni inginocchiati col culo per aria. Ah, con la faccia da cane. Andassero a prenderlo nel culo, anzi no, perché gli faccio un favore. Parenzo che dà lezioni di bon ton sembra quel frocione del Conte Galè di RTL. Che tristezza. Parenzio, se Donato dice che 5x4 fa 24, tu devi stare muto. È 24, cazzo. Uomo di merda! Donato è un eroe! È un eroe! Rida! Allora, sto ricevendo molti messaggi ovviamente su questi piccolo corso che vi sto facendo di bon ton. L'ultima cosa che voglio dirvi oggi, poi torneremo sull'argomento, è sul centro tavola. Il centro tavola deve essere defetto e soprattutto non deve però essere troppo grande e ingombrante, così da non ostacolare i movimenti e da non impedire la vista degli ospiti. Si preferiscono delle composizioni floreali, però sono anche molto belle e moderne quelle di frutta. Ovviamente nel caso fosse si trattasse di una cena romantica, si possono scegliere delle candele basse o dei candelabri non troppo alti, perché la fiamma non deve essere all'altezza degli occhi. Guarda, io ricordo solo una cosa, che prego. Quando io abitavo da solo tanti anni fa in una casa immensa che era quella dei miei parenti in via del Governo Vecchio a Roma, pieno centro, quindi una casa da milioni di euro, andiamo avanti, d'accordo? Esattamente, ma non era solo della mia famiglia, era una parte era della mia famiglia. Non occorre giustificarsi, no, ti sto dicendo, una casa da milioni di euro, una casa da indivisibile, diciamo, non ti giustificare, non una c'è casa problema. Enorme di milioni 500 di metri quadrati a un certo 500 punto metri. Cruciale vive in 500 metri quadrati, benissimo. Ho detto per un certo periodo mi sono trovato praticamente da solo con vari parenti che stavano per schiattare in una casa di 500 metri quadrati. Esatto, bravo, esattamente. Benissimo. Invitavo una signora molto porca. Una signora molto porca veniva a trovarmi, ero ragazzino, avevo 26-27 anni, e c'era una signora, ma no, anzi forse anche meno, una signora molto porca che era all'epoca era sposata con un grande commis di Stato, ancora mi ricordo, fu praticamente una mia iniziazione in pratica. Sì. Era la moglie, credo 35-37, forse anche 38 anni, però era una signora tutta seria, cioè lavorava in uno studio avvocato, ancora mi ricordo. Non voglio dare troppe indicazioni perché altrimenti magari questa qua si ricorda. Esatto. Magari anche il marito. Sì, il marito era un grande commis di Stato. Sarebbe un bellissimo di Stato. Che il marito ascoltasse la trasmissione e dopo a distanza di 20 anni ti venisse a prendere, 30 anni ti venisse a prendere sotto casa. È l'89-90, stiamo parlando veramente di tantissimi anni fa. Pensa se ascolta, ma che meraviglia. Se allora, fosse alla praticamente che succedeva? No, è impossibile che verificare questa cosa, è impossibile risalire alle persone. E ogni tanto veniva a trovarmi, usciva dall'ufficio, passava da sotto casa mia, Beh, amico mio, lo sai che io mi hai fatto ricordare questa cosa. Attrezzavo un piccolo, era l'ora di pranzo di solito, attrezzavo un piccolo in un salone immenso di quasi 100 metri quadrati, caro Parenzo, in questa casa, salone rosso dove mio nonno faceva addirittura il teatro negli anni 30. C'era un piccolissimo tavolo, attrezzavo con delle candele, perché la casa era molto buia, la casa vecchia molto buia, delle candele, e le mettevo là, praticamente stavo lì, facevo delle cose da mangiare molto scarne, andavo a comprare sotto eccetera, lei mangiava poco, e dopo c'era la stanza accanto, che era quella di mio nonno, la stanza accanto padronale, accanto, sì. Perché c'era il salone enorme e la stanza accanto, e passavamo direttamente a letto. Bellissimo, mi avevi fatto ricordare questa scena. Adesso il marito come sarà contento che si riconoscerà in questo racconto? No, sicuramente no, perché intanto Donato Varese, eccoci qui. Donato, che è successo? Come mai ti sei acceso? Che è successo? Cosa ti ha fatto accendere stasera? No, io vedo che sul caso Fazio tutti quanti garbatamente con questo... Vedi però che a differenza di Mauro da Mantova, già nel piglio ha qualcosa. Come scusa? Come? No, dico che tra i miserabili. Fazio un delinquente. Non un delinquente nel senso che l'ha appoggiata piano, un delinquente proprio mentalmente, capite? La capa è delinquenziale. La ciurma rossa schifosa. Sì. Una ciurma rossa schifosa. Sì. Che si è insediata in una televisione, lo ripeterò fino alla morte. Anche mia! Anche mia! Fanno i cazzi che vogliono loro. Sì. Vanno a invitare Frasica, non so, addirittura sono andata a riesumare l'Orietta Berti, Cicimatulo. Tutta quella, questi qua me ne sono dai, ma sto parlando di quella come Fabio Volo, ma se non gli altri rossi che quel porco, di Fazio, ma che se l'avessi davanti gli farei succhiare tutto il mio catarro, pur che non ce l'ho. Quello lì dovrebbe prendersi 500, guarda, anche diamoci anche 100.000 euro al mese, all'anno. E che deve passare zitto, poi lui mi deve mostrare come fa a essere indispensabile. La Maggioni come può permettersi di dire senza farsi la RAI, per forza. La RAI sarebbe crollata, e che cazzo è sto Fazio, ma cos'è una piramide, cos'è sto Fazio, è un rotto in culo. Cosa vuol dire? Mamma mia, ma come si fa a parlare in questo modo? Non sarebbe rimasto in Rai a mentire, a indicare tutti i facci rossi. Scusa, una persona di destra. Ma dove, Camilo? Ma ogni tanto un grande uomo di destra, ma ogni... e che va di lì dai tre. Ogni tanto lo invitano, guarda, il signor Salvini è andato un paio di volte a Fazio, credo, signor Salvini. Salvini, ma lo vedi come lo trattano? Vabbè, ma ho capito, amico mio, ma che vuoi? Mi invitano e non va bene. Rai 3 è anche mia! Vabbè, sì, questo lo sappiamo. È anche mia. Ma figurati se l'hai... No, ma vabbè, ma cosa dice? Adesso perché? Non ho capito, Donato, cos'è che ti ha fatto incazzare di questa vicenda? I soldi che danno al signor Fazio? Soldi. Quello si merita 12 milioni di calci in culo. Ma nei perché coglioni, devi dire così? Quel brutto, quel mostro. Ha parlato quel mostro! È un deve... Allora, la RAI è anche mia. Sì, allora? L'ospedale pubblico, benissimo. Io nell'ospedale pubblico non c'è neanche il metal detector per entrare. Il metal detector. Entrare. Mentre l'ospedale pubblico bisognerebbe mettere il metal detector, perché ci sono innocenti. Ci sono persone malate, invece c'è una massa di partiti, spermaspettacoli, cornuti viziati, che si glorificano sui soldi del canone. Ma quel porco Renzi, venendo gli sporchi di sinistra, che dovrebbero andare tutti in galera. Scusami. Tutti in galera, compreso... Ecco, compreso questo pus che hai a fianco. Però scusami, Parenzo, la stessa persona che ti sta dicendo pus è quella che tu nei giorni scorsi hai detto. Sì, nella gara, diciamo, quando tu fai la gara degli stronzi, è evidente che c'è uno che è meno. La RAI è mia. Beh, questo però non ha tutti i doni. Però dico, tra tutti rimane più lucido italiani, lui. Poi vediamo chi vorrebbero vedere in Rai. Cioè, lucido, poi chiedo scusa, sono lucido. Ho sottoscritto Beh, in, oddio, base adesso, quali ma meriti? Scherzando. In base a quali meriti? Ma secondo te Orfeo in Rai in base porta Donato Varese? In base d'ingegno, quel spazio ci dovrebbe mettere 12 milioni di euro in tasca. Cioè, tu dici che gli italiani vorrebbero... presentare che cosa? La pattumiera musicale del mondo! No, ma aspetta un attimo, tu dici che... Comunque è un uomo incredibile, guarda. Tu dici che andrebbe... la Rai dovrebbe scegliere... Se uno sceglie, no? La Rai deve essere sradicata! La Rai deve essere bruciata viva! La Rai ha immobilizzato l'arte! La Rai ha immobilizzato l'idea! La Rai... ha bloccato l'ingegno, la radio è piena di parassiti. Ma guarda Marzullo, ma perché non lo mi sembra una merda che cammina. E ma come si comanda la spada? Ma ti rendi conto quanti reati è in grado di commettere questo qui? Quanta gente è in grado di diffamare questo? E lì da 40 anni in televisione, che cazzo fa ancora? Quello che faceva 35 anni lo sto ancora facendo adesso. Vabbè, vergogna! La Rai non è una camera da letto! Perché? Che c'entra che la pubblicità? Dai un passaggio per dire, io sono un genio, sì. Io sono un grande, ve lo mostrerò, sì. Passo di qui, sì. Signori, mi fate vedere, vi dico quello che sono, sì. E poi vado fuori dai coglioni. Ma di chi parla? La Rai non deve avere persone fisse, gli artisti, tutte le marchette che si sono fatte. Cioè, ma vali più tu, quante marchette che si sono fatte? Ma vali più tu, di Fazio? Perché la Rai, non è che ce l'ho con Gigi D'Alessio, per l'amor di Dio, il primo sponsor non si mette. La RAI deve essere smantellata. Bisogna andare a prendere, incatenare questo pazzo, incatenarlo, tirarlo fuori da quella RAI. A me devi dirmi, quali meriti lì? A me lo devi dire. Ma che sei? Lui mi deve spiegare. Ma perché allora, tu? Ma che sei il giustiziere della notte? Che sei il giustiziere della... Non sono nessuno. Cioè, meriti più tu di Fazio, la RAI, meriti più tu? Porco di quello! Porco di quel mondo! Porco di quel mondo! Ma che faccio? Ma che faccio? Io se facessi un programma come faccio, lo renderei nobile. Sì, in materia verità la farei stare in cielo! Renderei felici gli italiani! Ti farei guarire! Sì, ma guarire! Ma devi guarire tu prima! Marciume farisaico! Qual è spazio? Marciume farisaico! Bisogna mandarlo fuori! Dino Giarrusso è impazzito! Per essere messi in galera! Tutti in galera! Quelle grandi falsità! La Maggioni, chi è la Maggioni? Svegliatevi! Italiani! Ma svegliatevi! Italiani! Fermi tutti, ciao Donà, ciao, ciao. Merme, stai zitto, sì. Merme! Schifoso, lurido, schifoso, bidone umano, sacco vuoto, demente, imbrostito, che cazzo lo chiamaste ancora tu? Tu sei l'esasperazione di nulla, non servi a un cazzo, la mia merda, innobilita merda! Però devo dire la verità che l'intemerata di Donato sulla Rai sta riscuotendo diversi successi, eh? Beh, il paese ormai diversi, è... No, perché alla fine qualche cosa, adesso nel delirio generale, degli insulti, delle cose, però di fondo l'incazzatura dell'uomo comune contro la mammella pubblica, no? Che distribuisce denaro e non risponde poi di questo denaro, trova diversi consensi, diciamo la verità. È una delle poche volte in cui le intemerate di Donato, in realtà al di là dell'Islam, le cose hanno un qualche consenso. Troppo livore, è un paese che ha voglia del buon gusto, te lo dico io. Ma dai, insomma, adesso che c'entra? Però ti voglio far sentire Paolo Liguori, credo che l'hai già sentito perché era da te. Beh, era da me se stamattina. Mi do fuoco, non spegnetemi. Cioè, sì, ha detto una cosa incredibile. Cioè, il caso della donna dell'INPS che si è bruciata ieri, si è data fuoco, non è morta. Salvata per 70% fortuna. Di ustioni. Lui dice, se io mi voglio ammazzare, mi devo dare fuoco, non mi dovete spegnere. Vabbè, ma che cazzo vuol dire? Non mi darò mai fuoco per nessun motivo, ma se per un motivo mi dessi fuoco che nessuno si azzardi a spegnermi, perché se avessero spento Jan Palach non si sarebbe mai parlato di Praga. Se qualcuno in piena coscienza decide di darsi fuoco... Beh, bisogna salvarlo però! Ma secondo me è meglio che in questo caso la gente resti attonita e guardi quello che succede. Ho capito, l'abbiamo salvato. Non è necessario salvare il suicida. No, non riesco a seguirti, direttore, su questo. Se la signora Concetta si salva, l'effetto sarà dimezzato. Ma che dimezzato, e... direttore? Dai, su, come sarà vai a dimezzato? Perché si è salvata signora... una vita, non sarà è tutto mediatico. Perché la signora Concetta scomparirà. Vabbè, lei voleva fare questo gesto. Non riesco a essere... Ma magari un momento di debolezza, gli abbiamo salvato la vita. Ma comunque andiamo a Torino. Non credo. Boldrini, scusami, sei una brava ragazza. Boldrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Boldrini, ed è morta. La zanzara. Parenzo, sotto la sede del Sole 24 Ore, batte un figone esagerato. Siamo al top. Io fa sta male, sento dalla voce che sta male. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta La Zanzara. Parenzo, ho chiesto alla mia ragazza cosa ne pensa della tua tattica di portarla fuori a mangiare una cena di gran classe, poi teatro e poi alla fine di essere schienata. La reazione è che qual è l'unica parte che va bene? Ma l'essere schienata può anche andare, ma che palle non è la cena? Tutto il resto? Per dirsi bene, che coglioni, cioè il teatro, il cinema, no dai. Non hai capito? È il 2017, eh? Hai fatto colpo per una cosa sola. Davide, le tue tattiche da maggioranza silenziosa, cioè quella che vuole avvolgere una donna prima nel grande corteggiamento per poi schienare, no, ma parole, anche... tue, parole tue tramontano di fronte alla realtà. Cioè, non ci credo sono di aver femmine, usato mai questo termine. Ci sono femmine che vogliono essere schienate subito, no, immediatamente. Non tutte, ovviamente, però ci sono delle Io femmine. Io dico solo che ci sono anche, come dire, delle intimità che si possono creare anche in altro modo, oltre a quell'atto bellissimo. Senti, saluta e omaggio un mio amico che mi è venuto a trovare qui di fronte a me a Milano. Chi che è? Si chiama Enzo Ghinazzi in arte puto. Ciao Ghinazzone, ciao fratello mio, come sentirti. Stai caro, come stai? Sai che io sono un tuo grandissimo estimatore, lo so. Tu sai, fai no? parte della maggioranza silenziosa, lo so. No, silenziosa non tanto, insomma, però, perché tutto sei per bene, sei una persona fedele, sei un uomo un uomo fedele, soprattutto un uomo responsabile che è affidabile, direi, un uomo affidabile. Quello è vero. Pupo, diciamo che Pupo, non è proprio l'emblema per tutta la sua vita della maggioranza silenziosa, sì. Cioè però, un uomo quello no. È uno che ne ha combinati tutti i colori. Quello adesso no. Forse appartiene alla maggioranza silenziosa. Cioè, sì, io se, ripeto, posso insistere? Sono affidabile, molto più, sì. Ora non dico tu sei più affidabile della Maggioni, per esempio? Della Maggioni, del presidente, io non avrei Rai. Mai detto quella cosa che ha detto la Maggioni, esempio. La Maggioni io la stimo tantissimo come, sì, giornalista, inviato, certo, di guerra, certo, straordinaria. Però non è roba sua, però, fare presidente della Rai. Esatto, penso che fare il presidente della Rai sia un'altra cosa, perché dire che Fazio, sì, che Fazio è indispensabile, crolla la Rai se voglio Fazio, non fa neanche un buon servizio a Fazio, capito che volete? Mette in difficoltà Fazio. È no, ma hai ragione. Cioè, diciamo che non ti sei resa amica per i prossimi anni la signora Maggioni, non avrai facilmente un contratto alla Rai. Ma no, anzi, io la stimo molto, però non farei quell'errore lì. E poi la cosa che deve fare a questo punto, siccome lei è stata la prima che ha detto, lo dico, mi viene in mente ora una roba, il povero, fra virgolette, povero capo struttura che fu buttato fuori, Antonio Azzalini, dalla Rai per i 40 secondi di anticipo del Capodanno, che oltretutto poi si dice che era un'usanza, perché sai quelle storie anticipano tutto, è stato buttato fuori perché dice ha ridicolizzato l'immagine della Rai. Ecco, ora dico io, una dichiarazione del genere ridicolizza la Rai, insomma, per me è molto più grave, molto più grave. Ma tu vedi che alla fine riabilitare subito Azzalini. Parenzo, tu pensi che, me l'hai sempre detto in privato, no, ma per carità, ma è uno così che non, cioè, che ma non sono è, mai non permesso è, non è un gra- grande. Ma che dici? Sì, questo, me l'hai detto sempre in privato. Ma non ho mai detto una roba simile. Confessa, ma hai sempre detto. Ma hai sempre detto. Ti giuro che non è uno intelligente, un cantante così di bambino. Ma che sei matto, sei, mi diffami così. Ma tutt'altro, sei sempre detto che è una persona straordinaria, bellissime le canzoni, uomo di grande spettacolo, gli voglio anche bene, anche se l'ho visto una volta sola. Mi piace moltissimo. Ma hai detto nulla di simile, sei un diffamatore di professione. Tu sei proprio il ventilatore degli schizzi di fango. Lasciamo perdere. Ma non ho mai detto nulla cosa del genere. Senti, invece su Fazio, prima di passare a un'altra cosa, caro sì, Enzo, volevo sì, chiederti una cosa, sì, ma che ne pensi? Che ha pianto troppo e dopo, cioè, dire la RAI è in mano alla politica e poi dopo è sempre la stessa RAI che gli fa il contratto. Perché ha detto quella roba lì? Cioè, ma io direi che Fabio... Tu non lo stimi molto, diciamo la verità. È un uomo, no, è un uomo. Ti ha mai invitato? No, io ho fatto quelli che è il calcio per molti anni con lui, sono stato ospite molti sì, anni però con nel lui, suo salotto certo, di che tempo che fa non ti ha mai invitato? No, mi aveva invitato, la verità, ti do uno scoop, e questo è il luogo degli scoop. Mi aveva invitato per la penultima puntata del suo salotto, poi mi ha mandato un SMS dicendomi che non andava più bene perché ero andato prima da Carlo Conti ai migliori anni a cantare. Quindi lui voleva comunque l'esclusiva. Siccome io non vado spessissimo, non so se ti sei accorto, io rifiuto moltissime cose, anche certo, ultimamente ho rifiutato tante cose. Quindi lui voleva che io, ma questa non era chiarita la cosa, e lui non mi ha voluto, aveva già preparato tutto il materiale per la mia ospitata, non mi ha voluto perché sono andato da Conti. Ecco, questo è un po'... ma probabilmente anche, magari anche ragione lui. Ma ti sei un po' incazzato, tu o no? Direi la cosa non mi ha fatto piacere, la cosa non mi ha fatto per niente piacere. Certo. Basta, capito? Poi insomma, poi ma lui è un po' uno che chiagna e fotte o no? Ma secondo me, ecco, quello che vorrei dire, penso una cosa, perché dovrò andare a fondo, magari poi avrò anche altro da fare, me ne fregherò di questa cosa, magari lo dico ora, poi fra 5 minuti me ne sono scordato, perché noi dopo andiamo a cena, diciamolo, che noi andiamo a cena dopo. Sì. Dove andate a cena? Cazzi nostri. Scusami. Io vorrei sapere perché. Ma c'è anche dopo cena con le solite ragazze? Chi è? Si sa, notoriamente un grandissimo sponsor e amico di Fazio da sempre, perché si è alzato, è andato via e non ha praticamente un grande votato. Giallo quello stai dicendo, per me potrebbe essere un grande giallo, secondo me sì, perché io non ho capito questa cosa non l'ho capito. Senti, ma a te gli è mai successo di una donna che ti ha squirtato addosso? Ecco la domanda. Squirtato. Cioè, io non ti voglio parlare oggi con te, non voglio parlare di sesso, successo, perché ormai tu giustamente hai detto un sacco di cose della tua vita, però mi mancano due cose. Una è questa, lo squirting. Ami lo squirting o no? Moltissimo. Ti è capitato parecchie volte? No, non spesso, perché non tutte le donne l'hai ricercato ogni tanto. Ami anche la montagna, il mare? No, amo anche sì. Però, ma non è che ci sono alternative, non è in alternativa la cosa. Non mi fa schifo, ecco. Non ti fa schifo? No, assolutamente. Non l'hai cercato spasmodico? No. Io conosco delle persone che lo cercano poi in maniera spasmodica. Quello no. Mi piace molto, diciamo, che ci sia una partecipazione molto molto umida alla... Se poi si arriva anche diciamo al massimo allo delle tsunami, come dice il nostro amico, esattamente, allora non disdegno. Invece i piedi delle donne sono molto grosso dei piedi, sei un amante dei piedi delle donne? Non sono un attento osservatore, ma so riconoscere un piede, diciamo, fatto bene. Un piede brutto può farti ammosciare? No, assolutamente no. Quello no. Un piede è proprio un piede rozzo, grezzo. Lo so, a me è successo invece. Mi sono. Guarda, ora ti sto. C'è una che è pazzesca, ma non te lo dirò mai nemmeno se tu mi dici. Se tu mi dici, allora io e te, da oggi, se non mi dici chi è, non saremo più amici. Io purtroppo. Non me lo puoi dire. Non te lo posso dire perché. Ma c'è una donna. Famosa donna del mondo dello spettacolo, proprio, che ama moltissimo proprio i piedi. Usare i piedi. Cioè fare le sieghe con i piedi, diciamo la verità. Usare i piedi è la parte più, diciamo, importante per lei, quella più erotica, quella che li mette addosso, diciamo, la parte, quella che per le donne in genere si trova all'interno magari della vagina, magari si trova nella ce lei gode con i piedi. Il punto G suo sono i piedi, il punto, cioè gode con i piedi, cioè farseli leccare o anche a usarli, esattamente. molto importante nel mondo dello spettacolo, stai dicendo. Basta. Conosciuta. Non e poi molto basta. Conosciuta. Molto conosciuta. Molto. Che tu evidentemente hai conosciuto anche sotto, come dire, questo aspetto. Se io l'ho conosciuta o no, non te lo dirò mai, perché sarebbe un segnale. Perché sarebbe un segnale. Però c'è una canzone che mi devi cantare stasera, che è questa. L'azzardo di Eva. Cantare. Tu puoi andare anche a cappella senza niente. L'azzardo di Eva è un singolo che esce adesso. È importante per quello che io su questa cosa sono contro di te assolutamente. Perché? Per me è gioco d'azzardo tutta la vita. Gioco d'azzardo legale tutta la vita. No, questo no. Sì, questo no, questo assolutamente. Non siamo d'accordo. Altrimenti allora, si passa nell'illegalità. No, ma assolutamente. No. Quanti soldi hai perso tu col gioco d'azzardo? Molti soldi. In tutto. Hai fatto un conto? Ho fatto un conto più di 5 milioni di euro sicuro. Col gioco d'azzardo? Sì. Tutti recuperati. Adesso hai detto che l'hai recuperato. Totalmente recuperato. E sei diventato ricco come prima. Sì, esattamente. Però ci ha sofferto. Ha una camicia straordinaria. Una camicia bellissima. Cioè bellissima. Io non la metterei mai in realtà. Di solito sei molto sobrio. Invece sei una specie di camicia leopardata, c'hai. Cioè, è una camicia leopardata. Quanto costa? Tipo 3.000 euro sta camicia? Costa parecchio. Costa parecchio. Costa parecchio. Una cosa incredibile. È una camicia di Givenchy, sì, molto. Senti, un concerto in Ucraina quanto vale? Quanti soldi ti danno per un concerto in Ucraina? Tutti, dipende, te, no, ma dipende. 50, dipende. Si può arrivare a 50.000? Sì, ma si può arrivare, assolutamente, sì. Cioè, fino al massimo che ti hanno dato per un concerto. Il massimo che ti hanno dato per un concerto in Ucraina. Per una canzone, per cantare Gelato al cioccolato, un 31 dicembre c'erano ancora le lire, mi hanno dato 80 milioni di lire per cantare Gelato al cioccolato. E in euro una canzone, una volta ti è successo anche adesso? In no, in euro non mi è successo. E il massimo per un concerto che hai preso in Russia? Ma si prendono anche 100, anche 80. Ti sei mai chiesto perché sei così popolare in Russia e in Ucraina, insieme ad altri italiani? Ho evitato di farmi la domanda per non darmi la risposta. Che genio. No. L'azzardo di Eva, vai. L'azzardo di Eva è una canzone, non contro il gioco d'azzardo, Giuseppe. Bravo, è una canzone contro le truffe del gioco d'azzardo, che sono le slot machine, che sono le gratta e vinci. Se uno impara a giocare a poker, il poker è una metafora straordinaria della vita. Il poker ti insegna anche a bleffare, perché anche rovinare quel poker. Ho capito, ma almeno c'è un impegno. Ma tu ti sei rovinato col poker, però. Non è no, che ti io con lo Chemin de Fer, è un altro gioco d'azzardo che non c'entra niente, ma non ho mai giocato alle slot machine. Allora, io siccome vedo persone. Cioè, tu vorresti cancellare le slot machine? Io vorrei cancellare le slot machine. Vorrei che non ci fossero, che non esistessero più le slot machine. Cioè, le sale bingo le toglieresti? Assolutamente sì. Cioè, da cancellare domani mattina. Ma allora, secondo me, questo è, o troviamo un modo davvero, ed è difficile, perché l'ipocrisia che c'è intorno alla comunicazione del gioco d'azzardo è davvero imbarazzante. Cioè, il gioco responsabile, tutte queste bischerate, tutte queste cose. Io dico che c'è gente non educata, non educata al gioco. Quando noi andavamo. No, ma scusa, ma quando proibisci, poi crei legalità. Ma proibire non significa. Allora, facciamo una cosa, creiamo dei filtri importanti come col fumo, va bene? Cominciamo così. Cominciamo a dire, a mettere delle grandi. Già lo si dice. Oh no, delle grandi scritte. Gioco, delle grandi scritte. Tu lo fai in questo modo. Accendami un po'. Tu l'hai fatto in questo modo. Accendami un po'. Come cioè, mettere l'avviso, no? L'avviso a chi gioca. Sì, magari. Come, con la canzone, come fa la canzone? No, non c'è un cuore dentro a una slot. È solo una macchina che ti uccide e poi ti getterà. Nel vuoto che ti inghiottirà è il demone che cresce in te, il figlio dell'avidità, fratello serpente che fu l'azzardo di Eva. Grande Pupo, ci risentiamo tra un attimo. Stupendo. Tutto, solo culo, niente, capito? Sì, questo l'ho capito. C'è tutto, anche rapporto, tutto. Sì, culo, niente. Sì, ma questo l'ho capito, culo, niente, questo ho capito. Vuole massaggio romantico. Culo, niente. Per una notte romantica. Culo, niente. Impreparato mi coglie. Ehi, cosa fa? Capito. Chi glielo spiega a mia moglie? Massaggio tutto. Vai col massaggio romantico. Oh, oh. Vai con la notte romantica. Ma quanto è brava la Cina. Sì, solo culo, niente, capito? Nell'arte della. Ma questo l'ho capito, culo, niente, questo ho capito. Manina. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Ieri sera, ragazzi, mi chiama la mia fidanzata e mi dice: amore, sono andata in centro, ho comprato una cosa. E io subito: cosa hai comprato, amore? Ho comprato una cavigliera. Beh, Parenzo, come ti capisco. Aeroporto di Rodi, domenica sera, arrivi, nastro bagaglio numero 3, 600 persone, italiani, in attesa del bagaglio. Lei mi guarda, io la guardo, lei mi riguarda, io mi avvicino e le dico: conosci la zanzara? Lei mi dice: certo. Tu squirti? Lei mi dice: ovviamente. Amica mia, vai in albergo, la valigia te la porto io. Siamo al top. No, non c'è un cuore dentro a una slot, è solo una macchina che ti illude e poi ti getterà nel vuoto che ti inghiottirà. È il demone che cresce in te, il figlio dell'avidità, fratello serpente che fu l'azzardo di Eva. È una storia antica, nata insieme all'uomo. È quel gioco assurdo che ci ha condannato, tu lo sai. Ma testardo, vai avanti, anche se la strada è buia e sai che cadrai, ma vai avanti fino a che lui ti distruggerà. Qui c'è il punto più importante, senti, io mi sono proprio confessato. Io vorrei raccontarti di me, di tutta la mia sofferenza, di quando ho tentato il suicidio, di come ho scacciato i fantasmi e di quanto sia stato importante l'amore della mia famiglia. Io sono l'esempio vivente che se ne può uscire. Non arrenderti all'indifferenza. Poesia. Ai cannibali della tua esistenza, tu lo sai. Ma testardo, vai avanti, anche se la strada è buia e sai che cadrai, ma vai avanti, soffrirai. Ma se vuoi, se ci credi, troverai la strada che adesso è buia e non la vedi, tornerai. Vai di nuovo a vivere. Lo sai, Valenzio, una delle mie più grandi aspirazioni, una delle mie più grandi aspirazioni è cantare insieme a Enzo. Ma che in un'altra vita magari lo farò, in coppia, qualche canzone, qualche cosa. Perché mi picco di essere leggermente intonato. Però ma adesso l'ultima partita poker che hai fatto a Scemende per quando è stato? Cioè, tu giochi ancora? No, assolutamente non giochi no, più. È come il sesso, praticamente. Più forte del sesso. Io ho rinunciato moltissime volte a notti importanti con donne molto belle per giocare. È stata una tragedia. Cioè, è una praticamente il gioco ha un'attrazione enormemente più forte del sé, la potenza è più... Quando è vero, quando la passione che i denigratori chiamano vizio è vera... Che non è un vizio? Per me è una passione straordinaria. Ma tu ogni tanto ci pensi a farti una partita, Io soffro ancora oggi perché a non giocarti un 200.000 euro in una serata. Non è più una questione di soldi. In una serata quanto hai perso al massimo? Questa è una cosa storica, ho raccontato molte volte. Non me lo ricordo. Nell'83, in una mano di Chemin de Fer, che è una cosa che dura qualche secondo, persi 130 milioni di lire. Oh, mamma mia, mi sento male. Sì. Ma mi sento male. Io c'ho un attacco, mi sento male. Ma lo raccontate già. Ma c'ho un attacco cardiaco, sto qualche, proprio male. Qualche domanda finale. Ma infatti bella canzone, guarda, fai bene a fare questo ruolo, hai questo ruolo sociale. No, ma bello, ma perché Davide? Bravo. Perché è una delle poche cose che non mi piace di Enzo. Essendo tornato a vivere proprio, avendo avuto questa fortuna, non so perché io, se fossi scomparso magari per sfortuna, per 10 anni fa passavo la storia come un cantantucolo che aveva scritto 3 o 4 canzoncine, certo. E un fallito che aveva perso tutto a poco. Invece credo che oggi, magari da qualche anno, se dovesse succedere qualcosa, almeno passerò la storia come uno che ha saputo tornare dall'inferno e ha avuto anche la fortuna di potersi rifare. Certo, ma quindi io devo per forza restituire qualcosa. Bravissimo. Ma è vero che ti vuoi candidare alle elezioni? Questi sono bei messaggi della radio, bello, grazie. Ti piacciono queste cose sociali? Sì, molto, queste molto, cose sociali, sì, ti piacciono moltissimo. Cioè quando non senti la carogna che entra, l'ascoltatore che combatte, bravo, che distrugge, ti piace questo buonismo, questa cosa qua. Moltissimo. Ma non c'è buonismo, lui è tutto tranne che buono. No, ma questi messaggi, queste cose sociali. Una cosa, ti vuoi candidare sul serio alle elezioni? Cioè, se Berlusconi ti dicesse ti candidi, che fai? Sto pensando che potrebbe essere la mia prossima sfida. La tua prossima vita? Sì, vita. Ma con la destra? Col centrodestra? Sicuramente più semplice. Per me sarebbe più semplice, perché sono... Tuo padre è una famiglia gran fascistone. Mio padre era... Parenzo, hai qualcosa da dire per caso? No, mio padre era una persona per bene, ma era una persona molto legata all'estrema destra. Però io... Se Berlusconi ti dicesse io ti candido, tu ci penseresti? Berlusconi mi sta molto simpatico. Questo ritorno di Berlusconi ti affascina, questo ritorno? Cioè tra lui e Salvini chi sceglieresti? Lo auspicavo, lo auspicavi tra lui e Salvini nella destra, chi sceglieresti? Berlusconi. Capito, qui siamo pronti devi fare noi con Pupo, bellissima questa cosa, movimento noi con Pupo, tutto con noi qua. Ma Renzi ormai è finito secondo te? No, Renzi non è assolutamente finito. Renzi credo che sia uno grande politico, no, non credo che sia cattivo, credo che sia un uomo senza esperienza ancora, che dovrà fare esperienza, ma noi ce lo ritroveremo per molti anni, Renzi. Senti, ma tu voteresti mai Grillo? No, mai. Perché? Bene. Non mi sta simpatico. Cosa che non mi piace? Non mi piace, è una questione di proprio quasi anche epidermica, non mi attrae Grillo. Ma su molte cose la pensate uguale, però. Io ho conosciuto Grillo quando faceva il comico, era una persona molto simpatica, ma in generale, ma non mi era simpatico neanche allora, ecco. Come mai? C'è un episodio particolare? No, non c'è un episodio particolare. È una questione come si può dire, come io sto sulle scatole a tanta gente, magari non c'è un episodio della vostra. Mi ricordo che una volta mi raccontava che aveva molti soldi, raccontavamo degli averi, lui si vantava di essere molto ricco, e questa cosa eravamo in una tavola con tante dici persone. Di essere francescano adesso? No, ma io parlo degli anni 80, dico adesso, sto parlando degli anni 80. Si vantava di essere molto ricco? Sì, mi ricordo, era una persona che non mi stava simpatica. Senti, ma la Fiorentina che succede? La Fiorentina, spero che i Della Valle trovino un modo. Ma la potresti comprare in... ormai? Non ho i soldi per comprarla, e anche se li avessi non lo comprerei, perché ho già dato, nel senso del rischio. Ma potrebbe passare, che ne so, gli stranieri, sarebbe meglio? Se arrivassero degli stranieri? Per me no. Deve rimanere comunque italiano. Tutta la vita Della Valle, però con un pochino più di modestia da parte di questa famiglia, che se vuole stare a Firenze deve interloquire anche con la minoranza rumorosa, come dei fiorentini. Esatto. Grazie Enzo. Ciao, a presto. Ciao, ti abbraccio. Ciao, caro. Allora, Gennaro Caserta, vai, Gennaro, volata chiudiamo, finale, vai. Chiudiamo, che c'ho Hannuna che mi aspetta che in macchina Hannuna? Sotto. Che vuole Hannuna? Gli ho detto di salire, quel maiale di Hannuna. Eccolo, è arrivato qui addirittura. Senti, animale. Aspetta, c'è Hannuna. Aspetta, Gennaro, fammi sentire Gennaro. In voce, c'è Hannuna Gennaro, in voce. Gennaro. Sì, pazzesco. Stai zitto, sta animale. Ma chi è sto stronzo? Gennaro, è Gennaro, sì. Ah. Dimmi, Gennaro. Tu sei un a dare lezioni di Galateo, metti la botte, ma non ti rendi conto, sei ridicolo, tu ti devi ascoltare radio, se ti ascolteresti sei ridicolo. Ma perché, che ha fatto? Se ti ascoltassi, però bisognerebbe dire in italiano. Cruciale, l'intervento mio ero per un'altra cosa. Scusa, per il messaggio del Papa, no? Pronto? Che è Hannuna, aspetta Gennaro, chi c'è? Hannuna, che c'è? Dimmi. Dobbiamo andare noi. Sì, lo so, però scusa Hannuna, tu vieni da Israele a romperci coglione in questa trasmissione. È uno, guadagni un sacco di soldi con la finanza. Sei arrapato come una bestia perché ogni volta fai messaggi a Parenzo e su tutte le donne che passano alla Zanzara. Sei amante dello squirting. Dimmi che non sei amante dello squid. Dimmi maiale. Che non sia la madre dello squid. Maiale. Dimmi che non ti piace lo squirting. Maiale. La madre ascolta sempre. Dai, signora Nuna, suo figlio schifo, è un porco. Sei un porco. Maleducato. Pensa alle donne dalla mattina alla sera. Non è vero. Chiede indirizzi non e numeri di telefono a parenti che conosce le persone famose. Cruciani. Vergognati, vergognati. No, non ha bisogno di. Lui non ha bisogno. Vabbè, di fammi, di fammi parlare con Gennaro. Adesso fra poco te lo lascio, Parenzo. Gennaro, okay. Dimmi. No, Cruciani, io volevo dirti quella cosa, il passaggio che hai fatto riguardo al Papa, no? Noi giustamente. Il come al solito tu l'hai trasformato col tono che hai usato, dice la Chiesa, purtroppo il Papa adesso è arrivato e ha trovato una Chiesa non tanto teologica quanto aziendale, no? La sta modificando. È giusto che se lui dà un messaggio del genere vuol dire sì, però amico mio, riguardare. Il Papa deve fare il Papa, non si può occupare delle pensioni d'oro, perché altrimenti uno dovrebbe vedere tutte le cose che ha la Chiesa, tutti i beni, tutte le storture, a partire dalla pedofilia per finire con gli immobili, per lo IOR, eccetera, eccetera, compreso il fatto che ci Papa... sono i preti militari che paghiamo noi e hanno degli stipendi d'oro, delle pensioni d'oro. Ma sicuramente, e comunque, poi scusa, il Papa non può fare Grillo, non è come Grillo. Ma non lo so se la sta ritruttando. Non mi interessa, il Papa non può fare l'accusatore sulle pensioni d'oro italiane. Si occupasse dei problemi del Vaticano, che ce ne sono parecchi. Così, perché pure tu sei un privilegiato. Io non sono affatto un privilegiato. Pure tu sei un privilegiato. Questo perché prendi uno stipendio da capogira a fare il conduttore radiofonico. Io prendo uno stipendio normale. Potrei guardare gli assicuri. Ma tu prendi 12-13 mila euro al mese e me lo chiamano uno stipendio normale. No, veramente credo che anche di più. Il punto non è quello, Gennaro. Il punto è che io potrei guadagnare molto di più. Guarda che a me dei soldi non me ne frega un cazzo. Questo purtroppo lo so. Questo purtroppo è vero. Purtroppo. Alessandro da Milano, vai. Alessandro da Milano. Eccomi, ciao Giuseppe, ciao Davide. Dimmi allora, io volevo parlare con Davide riguardo il bon ton e il bel modo di comportarsi. Ciao Alessandro. C'è Annuna, ciao. C'è Annuna. Allora, dobbiamo spiegare. Di essere salutato visto che sono venuto da Israele. Annuna è un israeliano. No, un ebreo romano. Un ebreo romano che vive in Israele, che lavora nella finanza, non so dove. Dove lavori, scusami? Basta, non ho capito. Dimmi l'antare queste ma cose. È vero? Io vorrei capire una cosa. Innanzitutto, sì. Sei circonciso pure tu? Oh, mamma mia. Ma di chi stai parlando? Di te, Annuna. Sei circonciso o no? L'ho introdotto il discorso sulla circoncisione alla zanzara. Sei circonciso o no? Ma per forza, è ovvio. Sei circonciso, benissimo. Fare scopare. Con il cazzo circonciso è meglio o peggio? Dottor Annuna non è presente, è andato via. Dai, su, adesso che sei venuto a fare? Adesso che dottor ci vuoi parlare? Annuna è andata a parlare Annuna. Con Draghi. Alessandro, dai, Alessandro. Sì, sì. Allora, così. Io penso che David sia una persona che predica bene ma razzola male. Sì, perché ci sono foto in cui impugna il calice di vino dalla coppa. Che è la cosa più inelegante no, che calice di vino dalla no, coppa. Questo che non vuol dire? È possibile. Allora, può essere che magari in un momento di come dire di... No, ci sono foto su Instagram, l'ultima adesso, sabato ragazzi, sera, prima... non è che possiamo no, Giuseppe, io sono d'accordo con te, a me non mi frega niente di come bevi il vino, lo puoi bere nel bicchiere di plastica. Adesso è tre giorni che Parenzo ci sta sfracassando le balle con questa storia del Galateo. Va benissimo, per carità, però si conferma il fatto che trattasi della sinistra chic, della sinistra snob. C'è gente che non riesce. Ma preparare c'è una gente bella che tavola, non c'è sinistra ma o sì, destra. Ma sì, ma a parte che è viva zitto un attimo Alessandro, è viva i tovaglioli di carta, sporchi, e viva le bottiglie di plastica. Ma sì, ma anche quelle, poi io apprezzo anche le brocche, quello che ti pare, però sai che ti dico, io dentro il frigo ho 4-5 bottiglie di acqua minerale frizzante, che la prendo ogni tanto, me la porto a tavola. Normalmente non è che penso a metterla nella brocca, brutto, ma chi se ne frega? Brutto, Alessandro Bergamo, vai. Brutto, vai Alessandro, brutto, dimmi. Sì, ciao Cruciani. Dimmi. Io volevo ringraziare Parenzo per quando parla dei Rom, perché prima di tutto lo fa in modo sincero, lo si vede proprio. Cioè lui è portavoce delle comunità Rom. No, portavoce sei il portavoce sostanzialmente delle comunità Rom in Italia. Se io fossi il portavoce non consiglierei ai Rom di rilasciare interviste, cosa che invece fanno quotidianamente, no? Vabbè, cioè, Alessandro, allora... Ma niente, no, io volevo ringraziarlo perché secondo me porta a terra, diciamo... La causa degli italiani, certo. Nel senso che gli italiani andranno sempre di più a votare per partiti che tutelano gli italiani. Cioè più Parenzo più Lega, stai dicendo, più Parenzo parla, ecco, più voti per la Lega ci sono. Io in particolare sono della Lega. Ecco, quindi... si era capito proprio dal modo di porsi, si era capito comunque. No, ma dalla totale ineleganza dell'eloquio. Con i leghisti, da questo con si era capito. Come, scusa? No, io non ce l'ho con i leghisti, figuriamoci, anzi, ma sì, si è capito. Allora, tu ce l'hai con i leghisti della base, poi quando arriva Salvini invece abbassi ma la cresta. Ma ci abbasso sulla cresta, lo conosco da 15 anni Salvini, figurati, quindi non è che ho problemi. Sì, sì. Ma io ti conosco anch'io da tanti anni. Non credo, non abbiamo mai mangiato insieme. Vabbè, Alessandro, che vuoi alla fine? Non ho capito. Tu per esprimere un concetto, che è quello che più Parenzo fa il paladino dei Rom e più voti porta la Lega, ci sta mettendo 20 minuti. Abbiamo capito. Ciao, ti saluto. Ciao. Allora, voglio concludere questa puntata con una signora di 60 anni che mi ha chiamato l'altro giorno. Si chiama Claudia da Ferrara. Claudia Ferrara, che mi ha detto: beh, io sono pronta per te, amica mia, 60 anni, anche sei troppo giovane, io ripeto. Però un pensierino di Annuna. Annuna è già arrapato. No, la 60 anni. Però no, Annuna, ti piacciono le 60 anni? No, la moglie di Macron, io me la farei subito. Guarda, immediatamente. La moglie di Macron, dico io. Sì, forse perché la moglie di Macron, ma. Comunque no, in generale, questa signora di 60 anni si è offerta. Voglio comunicare a questa signora che in queste ore ci sto ripensando. No. Se non fosse per un se non fosse per un piccolo mal di pancia che mi è preso, che sono ho un problema oggi di stomaco, non ti ho confessato. Domani ti racconterò tutto di quello che ho fatto. Domani ti racconterò tutto nei dettagli. Che nei dettagli. Sono andato prima al bagno della Pricewaterhouse, non sai quello che ho fatto. Sì. Ma una roba. Ma pure guarda, sopra? Annuna, hai sporcato tutto. Annuna, tu non hai idea. Ma non hai idea, ho sprecato praticamente tutte le cose di carta che c'erano lì, tutto. Dobbiamo andare a una cena elegante. È una roba incredibile, saluto. Tu non hai idea proprio. Ti saluto, ma proprio acqua, cioè, acqua e merda insieme. Pazzesco. Ho dato le sette coppie di pento. Vada, Claudia andiamo da una Ferrara cena. Per chiudere, ciao. A domani. A ciao, viva la zanzara, viva la libertà. Ciao. Ciao, Farabu. Ciao. Claudia Ferrara. Ciao Cruciani, sono già fuori tema. In ogni modo, no, che dire fuori che... tema, dimmi, non c'è tempo. Ma volevo dire, i parlamentari, secondo me, devono essere controllati per la droga, anche una volta all'anno, però a sorpresa, non lo devono sapere quando li controllano. Cioè, tu sei addirittura della scuola Gasparri, cioè quello che ci ha detto prima Gasparri. I parlamentari italiani della prossima legislatura devono essere controllati una volta all'anno a sorpresa. Bisogna controllare che non rubino, no? Le grandi proposte di Gasparri. Bisogna controllare che non rubino, altro che. Scusa, anni? 60 era. Anni? Sì, sì, anni 60 proprio. Tondi, 60? 60 tondi, sì. Troppo pochi. Buoni, per Cruciani, va bene. Buoni. 65 minimo. 60, scusa, allora, 65. Cane, solo allora, 65 minimo. Allora, pure la nonna avanti, satanata, già adesso. Vabbè. Ci troviamo più avanti, allora. Ci troviamo più avanti. Satanata. Ciao, Claudia. Ciao, pazzesco, ciao. Non c'è più morale. Cruciani, la moglie di Macron è un cesso. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma fate l'affari tuoi! A Parenzo, fate l'affari tuoi!